Allora parlo con la Zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. Male, cazzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. C'è della vita, caro David, anche nella Lega Nord. Perché per la prima volta un esponente molto vicino a Maroni, un esponente molto vicino alla dirigenza della Lega Nord, pronuncia delle cose che non erano nemmeno lontanamente immaginabili prima, caro Parenzo. Nemmeno ci si poteva pensare. Dice: bisogna pensare a legalizzare la droga leggera, cioè canne libere per tutti. Sarai contento? Forse dovrai venire in Lombardia prima o poi. Beh, trasferisco la residenza lì, eh. Beh, così ti potrei fare tutte le canne che voglio. Ma le perché canne anche il simbolo della rosa, della Lega, in fondo, della rosa camuna. È una tu pianta. Dici, beh, sì, certo, è vero, sì. Potrebbe, sì, ricordare, è stilizzata, sì. Potrebbe ricordare. Potrebbe ricordare. Potrebbe ricordare anche Renzo, infatti, con tutto quello che ha fatto, ha fumato tanto. Con tutte le stronzate che ha fatto, ha fumato. Ma scusi, Bossi, lei è d'accordo con questa cosa che ha detto? Io ne ho parlato anche con Squinzi. Ma che c'entra Squinzi? E ha detto intanto che sei un coglione di Terroni, intanto, quando abbiamo telefonato. Poi? E poi ha detto che anche la Confindustria a favore che prenderà Renzo alla direzione generale. Ma no, ma questo non c'entra, no, ma sicuramente detto, non lo prenderà. Confindustria, no, non avverrà. Questo non avverrà. Libera. No, ma invece droga libera, no, Padania libera, droga libera in Padania. Lì che col Dio posi, anche le corna a Padania. Lì il campo di Pontida, in verità è una grande piantagione di erba. Di erba, sì. Ma allora mi sembra che lei sia d'accordo, Bossi, con questa cosa. Delle stronzate che dico sempre d'accordo, sono sempre. Padania il libera. Protagonista è Gianni Fava, esponente della Lega, brava. Sentiamolo. Una brava persona, però. Possiamo fare due battute sulla questione della cannabis, sulla legalizzazione. Io quello che ho già detto, non è che io non cambio idea, non è che. L'hanno lasciata da solo? Ma non mi sento solo, no, queste sono scelte che prima che politiche sono di tipo etico, quindi uno eticamente può sentirsi sempre ben accompagnato, dipende dai punti di vista, non mi sento solo. La Fini Giovanardi è una legge liberticida. Nei prossimi giorni il Parlamento dovrà normare, legiferare nell'ambito di quello che è il famoso decreto svuota carceri, sostanzialmente scegliendo se superare o meno quello che io giudico essere una legge liberticida, che è la Fini Giovanardi. Credo che a quel punto noi dovremo prendere una posizione. Potrai credere, caro David, non ci puoi credere, ma a Pitti Uomo, alla sì, manifestazione sì. Di Firenze, dove c'è anche Radio 24 invitata sì. Con varie sì, trasmissioni, tranne noi, vabbè, anche questo lo so, lasciamo sì. Perdere, sì. Tranne però noi, c'è il signor Pardoli, sì, un sacco di gente, però io dico una cosa, no, manifestazione di Firenze, ma si e sono impazziti, hanno invitato anche il mago Telma a fare la benedizione. Sì, questo anche avevo sentito. No, ma ti rendi conto o no? Gli amici. E non invitano noi poi. Cioè, non invitano uno che è un circense con quei cappelli che parla col plurale, ma gli estati. E non invitano noi! Cioè, gli organizzatori di PT Uomo hanno permesso l'ingresso dentro, no, gli stand. Io pensavo fosse una bufala del signor Selma, no, che ogni tanto mi manda le mail. No, con senti, le sue cosa, senti cosa ha fatto. Ha fatto una benedizione urbi e torbi, ha distribuito del sale in mano alle persone che ridevano, ti giuro. Ma l'hanno arrestato, spero. No, che arrestato? C'era la gente lì con dei ceri in mano accesi, no? Poi dei grani di sale in mano e poi buttati. A PT Uomo, è una roba importante. A PT Uomo, io denuncerei questi di PT Uomo, sono da denunciare. Senti, senti. Infine incontro. Il Tor Calem. Olim Peror. La gente rideva, lo pigliava per il culo. Poi i granelli di sale. Ma cosa diceva? Ma questo è pazzo. Ma c'è della gente in macchina che sta tornando a casa, tu gli mandi quel matto lì, Olim, che gol. Aspetta, aspetta, aspetta. Così dirai. Al centro della fronte, davanti a voi, arrestate e ruotate in senso antiorario e circolare, come noi stiamo facendo. Il primo granulo di sale grosso. Il primo granulo di sale grosso. Che c'ha in testa lui il sale. Ma io dico roba da matti. Pitti Uomo, Pitti Uomo col mago Telma, signori miei. Decisamente. Vabbè, comunque. Ieri abbiamo sentito nei confronti del segretario del Partito Democratico Bersani, nei confronti anche della povera ragazza che si sta curando grazie alle sperimentazioni sugli animali, delle parole orribili, delle parole orribili qui alla Zanzara. Se n'è accorto anche il mitologico Giovanardi. Senti, senti. Quest'Italia livorosa, limacciosa, lurida da fogna, che sta emergendo. Ieri sentivo la Zanzara in diretta a persone che si qualificavano gli insulti e le maledizioni su Bersani. Sì, oggi il Corriere fa un pezzo sull'insulto in rete, anche quando Bersani è stato male. C'è una cattiveria che c'è in giro. Ti fermerai. Oh, allora l'ascoltatore Lucio, Lucio, senti, gli auguro lo stesso destino di qualsiasi altro stronzo. Lucio, lo vogliamo ricordare questo Lucio? Io, guardi, avendo visto da vicino cosa vuol dire affrontare una situazione di quella gravità, gli auguro quantomeno che gli succeda lo stesso che è successo a qualsiasi povero altro stronzo che non ha potuto, non ha avuto gli stessi poteri Bersani di fare del bene e del male, che non fa notizia e che ha sofferto comunque. La stessa imbecillità da parte dell'ascoltatrice Bruna, la signora Bruna. Che hai reso così. Se la ragazza nasce difettosa, lasciamola morire. Così dirai. E per quanto riguarda quella povera ragazza, non me ne frega niente neanche di lei. Perché se una persona nasce difettosa, è giusto che muoia. Perché deve far soffrire altri esseri viventi? Se una persona nasce difettosa, è giusto che muoia. Prendiamo gli esempi dagli animali. Un animale, quando è difettoso, la madre lo lascia morire. Noi invece dobbiamo far soffrire altri esseri viventi per salvare un resto umano che poi prima o poi deve schiantare lo stesso, capisce? Oh, un resto umano. Bisognerebbe mandare a fare in culo l'ascoltatrice Bruna, eh? Vada serenamente a fare in culo, no? No, beh, io la dico alla diritta. Il no, no, vada serenemente a fare in culo. L'Italia abbiamo con rancore. Noi il grande ritorno alla Zanzara, inizio del 2014, derita, non poteva mancare. Ma che no. Derita. Come? L'unico vero grande direttore, Emilio Fede, buonasera. Ehi, io chiedevo, ma le Zanzare dove sono andate a finire? Ma dove siete? Ho sentito un castrocchio, un pastrocchio di polemiche, di cose. Ma dove siete finiti? Un po' in vacanza, direttore. Anche noi ogni tanto ci pigliamo qualche piccolissima vacanza, breve, molto breve. Dove sei stato tu, direttore? Dove in vacanza? Sei stato a Capodanno? In quale per lussuosa vacanza? No, a Capodanno non lo dico dove sono stato. Ma come lo dici? Come? Non lo dirò mai. No, no, no, no, no, a questo punto. No. Già gli ho pagato l'invidia, non ne parliamo. No, Capodanno. Non mi dire che sei stato con lui. Sono stato fuori dai cancelli di Arcore. Ma no, sei stato ad Arcore, diciamo, sei stato. Vabbè, ad Arcore. Che male c'è? Fuori, non ma sono che, entrato. Ma che male c'è? È mica un reato, non sono entrato, non sono entrato. Ma che male c'è, scusa, direttore? Per carità, per carità. Dov'ero io? Dov'eri a Capodanno? Dimmi la verità, dov'eri? Arrampicato al cancello di Arcore, suonavo, ti ho detto, fate entrare, ma hanno detto no, non puoi entrare. E allora ma com'era Dudu? Dudu com'era? Beh, Dudu, a parte tutto, è una delizia ed è un cane di un'intelligenza unica. Addirittura. Mi hanno detto che si struscia sulle gambe dei è vero. È vero che si struscia sulle gambe degli ospiti. Si struscia, è vero o no? No, che si struscia, è un cane che sente, se una persona è simpatica va bene, altrimenti comincia ad abbaiarti. È simpatico, tu è molto simpatico. Ma come si è comportato a Capodanno? Non lo so, perché non mi hanno fatto entrare. Ma che non ti hanno fatto entrare? Avevo le notizie attraverso Michele il cuoco. Ma figurati. Ma è stato un bel Capodanno. C'eri anche tu, alla fine sei stato riammesso a casa Berlusconi per Capodanno. No, io sono stato, come si dice, no, quando uno viene eliminato dalla casa, cioè, ma figurati, dai, su, uno come te. Ma ero davanti ad Arcore. Ogni tanto ma mi scusa, ma mangiare. È vero o no? Scusami un attimo. Allora, diciamola tutta. Io sono stato, ho passato il Capodanno con Berlusconi. Ma che c'è? Che male c'è? Mica è Al Capone. No, ci mancherebbe altro. Sarei stato onorato, però non sono stato onorato, nel senso che non mi hanno fatto entrare. Ma non è vero, dai, su, direttore, si sta incoglionando, ma dai, su. No, non parlo neanche. Ma come non parli? Ma dai, no, su. Solo se me lo chiedo tu. Allora, facciamo. Ma dove hai passato il Capodanno? Dice Dudu, domanda Dudu. Io ho visto che il Dudu è stato passato Capodanno lì, e c'è una bellissima fotografia, guardate, visto sul quotidiano Il Tempo. Sì. No, mi sarebbe piaciuto essere a Capodanno ad Arcore, invece sono andato lì dietro il cancello. Niente, alla fine. Vabbè. Senti, ma ho saputo che il tuo successore, si sa, ormai è quasi ufficiale, che il grandissimo Totti. Il tuo successore. Ma avete già cacciato via dalla Zanzara? No, perché? No, come? Il successore? No, il successore alla guida del TG4, quello sto dicendo. Ecco, ammazza, la guida del TG4 due anni, cioè a marzo sono 2 anni che non ci sono. Appunto, più dico. Perché chi c'è adesso lì? Hanno messo qualcuno? Totti hanno messo. Come, no? Chi c'è? Ah, beh, non lo so. Ah, Totti chi dici? Totti chi? Come fascina. Totti chi, per carità di Dio, non mi fate dire che ho detto Totti chi. No. Ma non avere paura, sei terrorizzato, non ho capito. Sono terrorizzato, letteralmente terrorizzato. Ma perché? Perché? Cioè, chi c'è come direttore del TG4 adesso? Scusa. Guarda, come direttore del TG4 c'è Totti. C'è Totti, c'è anche come di studio aperto. Di studio aperto c'è Totti. C'è Totti. Ma perché lo dici con sofferenza? Non capisco. No, sofferenza, sono contento. Si ragazzi, sente. Voi dalla Zanzara, non capite niente, è un momento emozionante. Ma come tu lo voteresti come politico, Totti? Sì, l'ho visto in televisione. Com'è? Funziona? Voto? Voto? Voto? Voto? Totti voto 4. Totti voto, ragazzi, ma che volete fare perdere il posto? Ma dai, Emilio, quale posto? Sei terrorizzato, ma quale posto? Poi puoi dire le cose in libertà, sei un uomo libero, su, basta con io questa. Vabbè, allora te lo dico io, voto in televisione 4, dai. No, come in televisione è bravissimo, 8. Ma dai, dai, Emilio, no, su. Guarda che Totti ha lavorato con me quando io ero direttore. Anzi, avevo chiesto. Ti piaceva? Perché... Ti piaceva? In che senso? Fisicamente? Come... No, fisicamente no, non credo. Fisicamente? Che no. Sì, è bravo. Sì. È uno. Ma lo volevi tu? Lo volevi lì a. Come caporedattore? Cioè, lo volevi? Lo volevo? Che ne so se lo volevo. So che adesso è lanciatissimo. È lanciatissimo. Ah, siamo vicini di casa. Si libera un posto, però, si libera un posto, Emilio, Cioè si liberano posti, non è che torni in corsa pure. Scusa, tu, è no? Giovane. Ma ci pensano neanche lontanamente, non io. Ma tu lo faresti? Che cosa? Lo torneresti a fare il direttore del TG4 domani mattina? Tornerei a fare il direttore del TG4. Domani mattina? No, ieri. Totti va al ieri. Cioè Totti va al partito, Berlusconi ti chiama e ti dice torna a fare il direttore del TG4, sei già lì. Ma che, hai fatto un brutto sogno? No, ma è un buon... No, però è chiaro che è così, dai. Ma ti pare che Berlusconi si... chi lo sa... Ma non lo so, può darsi, non lo so. Ma lo faresti, diciamo la verità, torneresti subito. Ma subito, che domanda è, ovvio. Diciamola tutta, dai. Allora, sarei bugiardissimo se dicessi no. Oh, io ecco. Tornerei e come? Ogni tanto mi chiedono perché non sono lì. Ancora te lo chiedi. Allora, Dudu ufficialmente chiede dal suo sito internet, il blog di Dudu. Ecco, Emilio Fede, te lo chiedo io. Che hai fatto a Capodanno, Bau? Allora, domanda di Dudu, devi rispondere adesso. Devi rispondere. No, io a Dudu rispondo sicuramente. Rispondi, te l'ha chiesto ufficialmente. Dudu. Su. Allora, Dudu, ci siamo incrociati, ti ricordi, Dudu, nella cucina? Sì. Mentre stavano preparando i tortellini. Ah, allora, sei stato a casa di Berlusconi, sei stato con Berlusconi a Capodanno, no, dai. Sono stato in cucina. In cucina, in cucina, ho capito, sì. In cucina. Traffico, torniamo subito. Sì. Sei ancora a casa? Le zanzare di casa mia. Comunque ragazzi, anche gli americani si sono impazziti, è una rivista molto famosa che si chiama Foreign Policy, una di quelle riviste tutte, no? Che vengono lette anche in Occidente come fossero una Bibbia, dice, inserisce la Chiang tra i 100 pensatori più influenti. Adesso sicuramente Parenzo ha qualcosa da dire, perché è coraggiosa, perché cambia l'Italia. Ma perché ha cambiato il volto della politica italiana. Ma quale è cambiato pur volto? Non facendo nulla, perché questo, dai, questo va detto, dai. Pur non facendo quasi nulla, dai. Ma è diventata un simbolo, suo malgrado, perché ma l'hanno la, gli attacchi. Scusami, è la prima volta. Ecco, no, sì, no, no, sì, tu sì, vai. Sì. Tu e il tuo cane nei tuoi ristoranti. Ti dispiacerebbe no, andare a fare in culo? No, così andiamo no, a fare in culo. Però abbiamo no, qui no, Emilio Mugolo. Fede, direttore del TG4, che ha detto che tornerebbe ieri alla guida del TG4 se Toti dovesse lasciare. Però Emilio, abbiamo bisogno di qualche parola definitiva su questo Toti, su questo astro nascente della politica italiana. È un astro nascente della politica italiana, il nuovo rottamatore. Un astro. Ragazzi, su, diciamoci la verità, saremmo invidiosi. Ma tutti, anche no, io non sono invidioso, è giovane, ha fatto nella bufera. Sareste contenti di essere al posto di Toti, sì o no? No, assolutamente no, ma a noi non ce ne frega niente. Beh, io non sono di Forza Italia, frega niente. Allora perché deve fregare a me? No, vabbè, ho capito, avrei la tua opinione su Toti, no, non avere paura di dirla. Toti, allora, Toti, no, come lo consideri dal punto di vista politico? Un errore di Berlusconi? Hai parlato con Berlusconi di questo? Io figuro se parlo con Berlusconi di Toti. Ma figurati, non Toti, non Toto. Non è Totti, non è Totti. Ma hanno lasciato fuori dai cancelli, te l'ho detto, poi ho incontrato il cuoco, ma dato da mangiare. No, Totti, allora diciamoci la verità. Tu come politico, come fai a dare un giudizio se ancora non lo è? Come giornalista è un bravo giornalista. Vabbè, ma quello dici delle cose scontate. Come no, è uno tenace, serio. E diciamo che Berlusconi dice che è un volto nuovo. E allora? Due volti vecchi. Ma è vero che è un volto nuovo? Ma noi che c'entriamo? Della politica, sì. Della politica, sì. Ma allora, può funzionare o no? Può funzionare? In questo momento sto mangiando del cioccolatino con due ragazze. Però, che sono... come due ragazze? Con due ragazze? Sì, no. Sì, sono dal dentista a Perugia, ragazzi. Sto a Perugia? Mangi perché cioccolatini vai, perché con due ragazze dal dentista? Ma perché a Perugia vai dal dentista, scusa? A Perugia, perché c'è un dentista alto, bello, bravo, bravissimo, e ci sono... Ma perché vai a Perugia dal dentista? È stato da Perugia dal dentista, ma che cazzo, ma che cavolo te ne frega a te? Ma ho capito, uno va perché al dentista... Perché a Perugia, sei tra Milano e Roma, il dentista a Perugia. A Perugia, un dentista con due assistenti bellissimo, lui si chiama Giampaolo ed è un bellissimo uomo. A me mi fa niente. Ma sicuramente avrai qualche cosa tu. Avrai qualche impiccio a Perugia, qualche impiccio. No, ma scusa, ma vogliamo parlare di cose serie? No, parliamo di Toti. Allora, ecco, allora Toti. Parliamo di Toti. Non Enrico. No. Ma come Enrico? Sì, Toti chi dici? Toti chi? Una no, cosa pazzesca. No, Toti chi non lo dico perché sarebbe una battuta anche abbastanza. Ma no, diciamo Toti chi non lo facciamo. Toti è bravo. Toti però in politica bisogna un giudizio lo puoi dare, dai, un giudizio allora, lo puoi dare. Tanto non ci sente nessuno. Nessuno. Diciamo che ha avuto un bel culo, no? Scusami. Perché dici? Perché scusa, dirige due telegiornali. Sì. E anche un esponente politico. C'è una moglie intelligente, simpatica, abbiamo lavorato insieme e con questo mi sono conquistato qualche bonus, no? Che dici? Ma che no? Non credo. Però no, scusa, ha avuto un bel culo, ma ha delle qualità, adesso questo lo puoi dire. Politicamente non lo so. No, così in televisione, è bravo o non è bravo? L'ho visto poco. Smettila, dai. L'ho visto poco. È che non posso rivelare delle cose che dici, dai, su. È bravissimo. No, è bravissimo. No, ma a parte gli scherzi, abbiamo lavorato insieme. Una persona seria, devo dire che Berlusconi, come sempre. Come sempre sceglie bene. Si circonda sempre, tu dici si circonda. No, vabbè. Allora, diciamo semplicemente, Toti è uno serio, è un lavoratore, non è, diciamo, sbruffoncione tipo Emilio Fede, è uno che sa stare al posto suo. È un po' grigio, dici, un po' grigio, eh? No, l'ho visto perfetto in tutto quanto, che ne so, mo da qualche parte lo vedremo in televisione. Sì, ma va ad assumere un ruolo importante. Beh, minchia, possiamo dire minchia. Cioè, non è che fa un ruolo così. Poteva essere tuo quel ruolo. Poteva essere tuo quel ruolo. Ma qual è esattamente il ruolo, che io non lo so proprio. Pare che vada a fare il coordinatore di Forza Italia. Cioè, o il vicepresidente. Forza Italia, il vicepre... Insomma, il braccio destro di Berlusconi. Dai, sei invidioso. Sei invidioso. Dai, Emilio, sei invidioso. Dai. Sì. Onestamente sì. Oh, sei invidioso, bene, sei invidioso. Perché dovrei dire una no, bravo, questo ti fa onore, ti fa onore. Sono, certo, sono invidioso di Toti. Sì. Ma che ha più di che ha più, che ha più di più rispetto a te? Me lo spieghi? Giovane più. A parte il fatto che è più giovane, che cosa ha di più rispetto non a te? Perché tu non ci non sei arrivato? Processi, insomma. Beh, ma sono due cose diverse. E che cosa ha in più rispetto a te? Più paraculo, è più diplomato, è più democristiano, cosa? Sì. Ma che ne sono, anche politicamente ti saprei dire che cos'è. Io guarda, con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto, è una persona molto rispettosa degli altri. Sì. Io lo ero meno, ma andavo a fanculo, dicevo questo, che figura sì. di merda di quanti su di tutti. Appunto. E quindi sono, sarei un po' sputtanatello, insomma, al vertice di Forza Italia, poi non ci penso neanche a mettermi a fuoco. No, ma io sto bene dove sto. Sto bene. Però sei invidioso di questo ruolo che. Senti, onestamente, sì. Sì. Come lo devo dire? Sì. Ti rode il culo da morire, dai. Beh, ti rode il culo. Insomma. Sì, ti rode il culo. Ti rode il culo da morire. Ti rode il culo da morire, dai, su. Sì, ma certo, scusa. Sì, perché a te ti roderebbe il culo. E tu dici da che voi. A me non lo so, io non mi sono trovato. Noi comunque, guarda, io diciamo a Mediaset sono stato per 26 anni, 27 sì. anni. Ma te che cazzo te frega te Toti? No, non mi cancella nessuno dalla storia. Che te frega te Toti, no? No, non è che mi frega di lui, anzi spero poi non so che ruolo ha esattamente, non lo so, non però, si capisce. Insomma, un ruolo importante, sono contento. Anzi, però scusa, se volete, se vi devo dire la verità, sono invidioso, certo, ci mancherebbe altro, e chi non lo sa. Ma poi ha iniziato da steggista con Liguori nel 96, no? Poi anche con te, che faceva? Come ha fatto questa carriera così rapida? Non lo sai. Lo so, comunque insomma è stato. Senti, ma ha saputo che hai un nuovo avvocato, Paniz. Abbiamo letto, sì, eh? Sì, no, cioè, se affianca. Ma lo paghi o no? Vuoi sapere la verità? È il primo avvocato che lavora per amicizia. Cioè, non ha chiesto soldi, Paniz non ti ha chiesto soldi. Questo è stupendo. No, non è che non me l'ha chiesto, non li vuole. Non li vuole, appunto. Cioè lo fa perché vuole bene al direttore, crede al direttore. Esatto, perché vuole bene a me e lo ringrazio molto, assieme naturalmente alla... Ma che stai facendo al dente? C'è qualcuno che ti sta toccando il dente? Sto mangiando un cioccolatino, porcaccia la miseria. Ma devi andare dal dentista col cioccolatino, Emilio. sono dal dentista, sono con le assistenti del dentista. E che fai? Passami un assistente un attimo. Ma non si mangia il cioccolatino? No, per favore. Ma tu puoi credere, sono una bellissima assistente. Dov'è l'assistente? C'è la zanzara. Ma è una donna? È una donna? No, cos'è una donna? Sì, è una donna. Come sono andata? Ecco, sta la tassa l'assistente, aspetta. L'igienista dentale, sì. Pronto? Signore igienista dentale, buonasera. Buonasera a lei, mi dica. Lei è la Minetti di Fede? Lei è la Minetti di Fede? Io sono la Minetti di Fede, no, io sono soltanto l'assistente del dottor D'Avigliano. Appunto, è la Minetti di Fede, è la l'igienista dentale di Fede. Quanti anni ha, cara? Bella, un'altra bellissima. Volevo... vanno al dentista per gli assistenti. Senti, a Capodanno Berlusconi ti ha detto che cosa fa col Milan, Seedorf? Allora... Dimmi. Io a Capodanno sono rimasto fuori di Arcole, che sono rimasto aggrappato alle sbarre, mi davano da mangiare fuori. Vabbè. Ciao. Dimmi amore. Ciao ragazzi. Ciao tesoro, ciao. Ti voglio bene, ciao. Ciao. E mi raccomando, pregate. Ciao, arrivederci, un abbraccio. Spazio sotto salice, non stare lì così, comodo. Impazzava ieri sera qui alla Zanzara, caro Parenzo. Impazzava chi? Bruna. Sì, risentiamo anche Bruna. Brutta gente, veramente brutta l'Italia gente, del rancore. L'Italia del rancore. Gentaglia, anche questa gentile signora in apparenza, ma in realtà c'era sotto una cattiveria. Anche noi siamo ogni tanto cattivi, siamo ogni tanto infami, siamo ogni tanto delle violenza, carogne. C'è odio, c'è rancore, per usare però le categorie di verità. Quando c'è di fronte un morto, no? Quando c'è di fronte un morto, o addirittura una persona malata, una persona che sta per una persona che magari in fin difficoltà. Di vita, in difficoltà, arriva sta Bruna, bastona e il cane a fuoco, vomita tutto. Per quanto riguarda quella povera ragazza, non me ne frega niente neanche di lei, perché se una persona nasce difettosa è giusto che muoia, perché deve far soffrire altri esseri viventi? Se una persona nasce difettosa è giusto che muoia. Prendiamo gli esempi dagli animali: un animale quando è difettoso la madre lo lascia morire, noi invece dobbiamo far soffrire altri esseri viventi per salvare un resto umano che poi prima o poi deve schiantare lo stesso, capisce? Sì, è vero, c'era Bruna, ma c'era anche il mitico Razzi, il mitico Antonio Razzi, senatore del PDL, il quale ha detto di essere meglio di Renzo Piano. Sentite, io sono meglio di Piano, diciamo. Ma sicuramente lui può essere più bravo di me come architettura, e quello non ci sta mai, almeno io sono sempre presente, ma come presenza in aula e lavori io sono molto molto molto meglio. E poi ancora Razzi, che cosa ha detto di fondamentale Antonio Razzi, che in fondo il dittatore nordcoreano, che secondo lui non è un dittatore, ma un moderato, quasi un democristiano, ha fatto bene a far fuori lo zio. Magari non se lo sono mangiato i cani, come hanno raccontato, perché la notizia pare che sia una bufala, pare che sia falsa, però ha fatto molto molto bene. Siccome suo zio non condivideva quello che diceva sto ragazzino, modo di dire, e allora stava organizzando un complotto per far fuori il nipote. E il nipote, siccome più intelligente, se ne è accorto e l'ha fregata alla curva, all'ultima curva l'ha fregato. E rideva pure, capito? L'ha mandato al patibolo. L'ha mandato al patibolo. Ma non so se stavo sperando dai cani alla fine, però. Titoli del TG3 di questa sera. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Letta stringe sul patto di coalizione 2 settimane per definire l'agenda. Avviate le consultazioni a Palazzo Chigi, primo incontro con Scelta Civica. Renzi aggiorni la proposta sul lavoro, no a scontri ideologici sull'articolo 18, Forza Italia, breve incontro Berlusconi-Renzi sulla legge elettorale. Si riapre il dibattito sulla legalizzazione della cannabis, il leghista Fava divide il carroccio, Vendola basta col proibizionismo, le proposte del PD. La Corte di Strasburgo boccia la legge italiana sul cognome della madre, è un diritto che va garantito pienamente. Ritrovati alcuni oggetti appartenenti agli anziani uccisi nella villetta del Torinese, a indicarli il figlio della coppia riascoltato dai carabinieri. Una bambina afghana di 10 anni imbottita di tritolo, convinta dal fratello a diventare martire, l'ultimo orrore dei talebani. Il gelo dopo la tempesta, temperature record negli Stati Uniti per il vortice polare, meno 50 negli stati centrali. Scusate se vi ho disturbato. C'è l'aria nel letto che mi graffia tutto. Ecco, mi sono ricordato di un passaggio in cui Razzi in realtà ha detto: io non so se sono mangiati i cani o i gatti, ma domani lo so, perché vado a sentire dei dignitari, dei segretari, dei segretari coreani. E questo sarebbe meglio di Piano. Va tutta la vita. Dal punto dubbio di vista dell'architettura, come ha detto lui, no? Dell'architettura. Non c'è un mondo che ha già tutto e di te non ha bisogno. Dopo domani ho un colloquio proprio con l'ambasciatore, proprio a riguardo di queste che si sente e che si vive. Però, dei cani, dei gatti, ma non lo so di che cosa parliamo. Ride. È sempre il numero uno. Meglio, però, nonostante questo, meglio Razzi di Piano. Dai, su. Lo ribadisco, meglio Razzi. No, ma lo dici tu, il gusto. Ma che gusto dell'orrido? Il gusto dell'orrido? Ma no, il gusto ma dobbiamo sentire ancora tutte queste polemiche. A te ti rappresenta, questo è il te, a te ti rappresenta di più, questo è il fatto. Sì, sì, Razzi di piacere, certo, non c'è dubbio. Non ma c'è questo dubbio. È grave, questo ma ti rappresenta grave di più. Ma facesse l'architetto senza rompere i coglioni in Senato, Renzo. Il signor Piano, su, quando tu vai a Amsterdam. Ma facesse l'architetto, va benissimo. Opere, ottimo, stupendo, meraviglioso. Ha costruito anche questo palazzo in cui siamo noi. Senatore a bravo. E questo palazzo in cui siamo noi, bellissimo, meraviglioso, stupendo. Da quale trasmetto io, tu sei a Roma. Palazzo meraviglioso, stupendo di Renzo Piano. Palazzo stupendo, meraviglioso, l'ha costruito lui. Però quello deve fare l'architetto, non il senatore a vita, a rompere i coglioni agli italiani con lo stipendio. No, dai, anzi, lo ha dato ai giovani di architettura. Ma sono detto soldi, io i soldi miei non glieli voglio dare. Ai giovani architetti non glieli voglio dare. Bellissimo. I soldi miei ai giovani architetti non glieli voglio dare. Tu glieli dai? Come no? Populismo. Perché non sono anche tuoi. Ma sono ben dati, sono ben spesi. Ah, almeno tu li vuoi dare ai giovani architetti allora? Beh, il fatto che un senatore a vita devolva il suo emolumento ai giovani architetti che non riescono a emergere in questo paese è un piccolo segnale, ma no? Fai, architetturico, quell'altro che dici per una gara. Ma stai zitto, ok? Questo hai fatto il teatrino, stai zitto. Questo stai è l'altro zitto genio della lampada. Cornute che non sono out, questi tu sono dei cornuti. Intellettuale organico. Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Oh, Giovanardi sul Congo dice: in realtà le famiglie bloccate in Congo, le famiglie italiane bloccate in Congo, beh, sono lì perché per colpa dei gay, dice Giovanardi. In parte è vero, però, attenzione, in parte è vero, sì. Perché in realtà dei single canadesi, che in realtà sarebbero gay, si sono presentati in Congo adottando dei bambini, se li sono portati in Canada, e in realtà erano accoppiati con gay, capito? Erano insieme, ho capito, amico mio, però ma non si può dire, ma non sentiamo. Sì, il 70% degli italiani è contrario all'adozione dei bambini. 70%. Io sono contrario all'adozione dei bambini da parte delle coppie gay, omosessuali. Sì. Le 20 famiglie che stanno in Congo bloccate ci stanno proprio perché il Congo ha chiuso l'adozione. Abbiamo la questione una delle del gay canadese, più arretrate del gay canadese. Quindi le 20 famiglie sono là distrutte come causa, con causa di un paese che ha chiuso l'adozione per un canadese che ha adottato un bambino congolese. Vabbè, che quella è una coppia. Guarda che è vera questa cosa qua che dice Giovanardi, non è pazza. Ma cosa? Ma è vera, cioè i congolesi sono incazzati perché a un certo punto un canadese è arrivato lì, ha adottato un bambino, ma in realtà non l'ha adottato come singolo, l'ha portato in Canada dove poi conviveva con ma il suo compagno. Ma cosa c'entra? Ma quelli con la si sono questione arrabbiati, come tieni no gli occhi sulla palla, Giovanardi, non riesci a tenere gli occhi sulla palla della questione. Ma che vuol dire sulla i palla? Gay, sulla vicenda, che c'entra? Cioè come si fa a evocare adesso? Dirà anche che uno di questi si è fatto le canne probabilmente. Tu dici che è colpa dei genitori. Ma sono le sue manie, è monomaniacale, no, è monomarca, è monomarca. Ma non è così, dai. Amsterdam città free Giovanardi. Tutti Amsterdam. Vabbè, ma che è vecchia questa cosa. Ma in Uruguay è la cosa in Lombardia. In Lombardia, più vicino. In Lombardia, in Lombardia. Gerardo da Mantova. Che è un bel ambiente. No, ambiente di maiali. Di maiali. Ecco un altro. Che il professore da Ormina si è esibito anche sulla legalizzazione, dice: forza proibizionismo il professore, viva il proibizionismo, sì. Come? Ti giuro. Lui liberare, libertario. No, no, no. È contro la legalizzazione delle droghe. Professore Carlo da Ormina, certo. Ma perché? Certo. Ha cambiato opinione. Ma certo. Si comincia con la liberalizzazione della cannabis per andare allo sfracello delle intelligenze e della società, rilanciare proibizionismo. Ma ha difeso fior di trafficanti di vabbè, droga, che cazzo scusa. Ma che mai? Gerardo da Mantova, Gerardo. È un amico, buonasera Luciani, no? Buonasera Parenzo. Caro Gerardo, dimmi. Voglio semplicemente farle una domanda a lei e a Parenzo. Perché io nel 1987 ho perso due figli in un incidente stradale per colpa di un imbecille che aveva fumato delle canne. Lei cosa farebbe al mio posto? Beh, cosa vuol farebbe dire? Scusa. Farebbe una legge. E legalizzerebbe la cannabis, sì. Oppure farebbe l'inverso. Ma è come però, per chi beve. Scusi Gerardo, uguale, non c'entra assolutamente nulla questa cosa qui, perché non è che la legalizzazione della cannabis avrebbe evitato certo. O avrebbe aumentato aumenterebbe gli incidenti stradali a causa della cannabis. Se come uno si vuole drogare, beve, si droga lo stesso, legalizzazione o non legalizzazione. sicuramente, allora? Sicuramente, ma legalizzarla, lasciare il libero commercio a tutto e a tutti, che le devo dire? No, scusi, Gerardo, ma ci sono molti più morti per ubriachi in macchina, la guida. Che legalizzeremo anche la cocaina, l'eroina. A parte che alcuni paesi hanno. Ma che c'entra lo stupro? Su, che stupidaggini che sono queste? Non è una questione di stupidaggine, è una questione di logica. Se una persona che si va a drogare, guida sotto effetto di droghe, sa benissimo. Ma viene punito, in questo caso viene punito. Se ti vai a drogare, sei consapevole che non sei capace di guidare. Ma cosa c'entra questo? Le vogliamo anche giustificare perché al momento Gerardo, pronto? Gerardo, io sono molto dispiaciuto per la morte di suo figlio, chi era? Non mi ricordo. No, erano due bambini, uno di 7 anni e uno di 4 anni. Per carità, siamo tutti dispiaciuti. Ma per carità. E poi sentirsi dire dal giudice, perché questo coglione va anche in giro e fa la sua vita oggi. Ma quello è un altro discorso, che c'entra? Sentirsi dire dal giudice che al momento dell'incidente non era capace di intendere e di volere, è una vergogna, Cruciani. Questo non c'è dubbio. È una vergogna. Questo lei ha perfettamente ragione, e dovrebbero essere puniti molto più duramente gli autori di incidenti stradali. Io faccio un lavoro e sto in strada tutti i giorni, però, faccio l'autista di pullman. Sì, però scusi Gerardo, posso dire, Cruciani, mi scusi che non la faccio parlare. No, dica. Posso dire che la legge con noi autisti ci fa un culo così. Ma quello certo, ma perché fate gli autisti e non vi potete drogare, ma ti credo. Ecco, vedi. Ma che c'entra allora questo? Fammi capire una cosa, esistono vabbè, persone di serie A e persone di serie B? Ma che vuol dire? Ma nessuno si deve drogare e mettere in macchina. Ma io non sto giustificando. Deve mettersi in macchina. Ma non sto giustificando quello che ha investito, ha distrutto la sua famiglia perché era drogato. Figuriamoci, è proibito comunque andare in macchina drogati. Ma è evidente questo, no? Ma non sentire parlare questi politici e giocarci sopra. Ma non c'è da. La legalizzazione. Capisco che lei fa satira, ma è una vergogna. Ma che c'entra? È una vergogna. Un attimo. Zanzare, io trovo in montagna, in collina, in campagna e a campare. Siete minchiate a palate e non si ride più delle cazzate che dite. Sei una capra! Vabbè, però prima di tornare con Gerardo da Mantova, che ci stava parlando di questa vicenda drammatica che non c'entra però niente con la legalizzazione, sì, Gerardo, nulla, io volevo dire, cioè legalizzare la marijuana, la droga leggera, è una questione di togliere un business ai trafficanti, non c'entra assolutamente nulla con gli incidenti in macchina, perché non è che se uno legalizza significa che aumenteranno gli incidenti, perché se uno vuole trovare oggi la marijuana, questa mattina credo il quotidiano Il Tempo, il quotidiano di Roma, pubblica un reportage della facilità estrema con cui ci si procura la droga a Roma in tutte le piazze possibili e immaginabili. Non c'è polizia che tenga, non c'è controllo che tenga, non c'è limite. Se uno si vuole procurare oggi una droga, qualsiasi droga, la più piccola, la più grande, eccetera, lo fa in maniera facilissima. Per cui non è quello il punto. Ha capito, Gerardo? Guardando la signora Bruna, sì, la signora Bruna. Ti direi solo e semplicemente una cosa: io ho due nipoti che sono down, che sono disabili. Sì. Allora? E faccio anche volontariato. Sì. Lei, la signora Bruna, si vergogni, se ha un minimo di dignità, si vergogni, perché non ha rispetto per la vita umana, non sa cosa significa soffrire, veder soffrire i propri figli, vederli morire e non poter fare nulla. Sì. Ha capito? Quella persona, mi scusi se la dico in maniera così cruda e cafona, il padre, se si sarebbe fatto una sega, secondo me era molto meglio, perché se sapeva di mettere al mondo una persona così imbecille da dire quello determinate parole, quella persona è un'emerita imbecille. Quella è un'esagerazione, mi sembra un'esagerazione. Un po' una iperbole, diremmo. Si no, vergogni, però. quella signora si deve vergognare, sì, non però ha nessun rispetto, vorrei per l'umanità. Vorrei tornare al suo esempio, la signora molto animalista che ha chiamato, che ha detto ma fa schifo, una persona del genere che la ragazza, schifo. Non so come diavolo si chiama, come si chiama? Sì, vabbè. Lorenzo, come la ragazza Caterina. Delle cure, Caterina, quella malata, sì, eccetera. E che dice... cosa ha detto di male Cruciani, quella ragazza? Cosa ha detto di ma male? Nulla, niente, ma figuriamoci, anzi, al contrario, forza. Allora, qua siamo tutti quanti bravi a puntare il dito, ma dall'altra parte però non ci si mette mai nessuno. No, ma mai, scusi, ma noi siamo dalla parte mai di Caterina, che vuole da noi? No, pazienza. No, io non sto parlando di lei. Io non sto comunque, parlando, in ogni sto caso, delle persone che hanno offeso quella ragazza. Sì, però una cosa è dire, criticare la signora Bruno, una cosa è dire che il padre doveva farsi una sega invece di metterla al mondo. Abbia pazienza. Ma forse è esagerato, è l'enfasi della diretta. Mi sono fatto prendere dall'enfasi, però dall'enfasi, è una persona, dall'enfasi, è una l'enfasi persona che ha detto delle cattiverie inaudite. Inaudite. Grazie. Sono cose che non si possono sentire. Vabbè. Una persona che se nasce, sì, perché non muori? Ma che significa? Ma siamo pazzi? Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco, come una muchachita. È tornato all'assalto il sindaco di Salerno De Luca, che c'è una mozione di sfiducia in Parlamento dei 5 Stelle perché è indagato per la solita puttanata. Noi lo appoggiamo anche se condannato, almeno io te lo dico subito. Sì, inutile che fai così. Fosse anche condannato, fosse brava anche... persona, però la legge vale per tutti, eh. Ma che c'entra, dai. Abbiamo su detto per tutti che è condannato. Ma no, non mi interessa, a me non mi interessa. No, sulle cose amministrative si può essere condannati per qualsiasi cosa. Chi non rischia, chi non mette la firma. D'accordo. Dai, sì, ma che fai? Che parli in emiliano, in romagnolo? D'accordo. Però De Luca è tornato a dire la sua perché gli hanno rotto le palle Italia Nostra, un'associazione ambientalista come al solito, sì, perché ha tagliato 4 platani a Salerno, no? Allora gli hanno fatto 2 coglioni così, vabbè. Tali platani, oltre ad avere un valore in sé, costituirebbero uno dei punti caldi per l'ornitologia urbana a Salerno, essendo da anni utilizzati come dormitorio invernale da oltre 10-15.000 storni e da 6-7.000 passere d'Italia. Inverno 2005-2006. Questo è il punto fondamentale, cioè gli hanno rotto i coglioni Italia Nostra perché questi platani ospitavano anche delle passere, le passere d'Italia. Scrive Italia Nostra. La risposta di De Luca: noi tranquillizzeremo anche gli amici di Italia Nostra in relazione al destino delle passere d'Italia, ricordando ovviamente che a fronte dell'eliminazione dei 4 platani che andavano tagliati perché pericolosi per la pubblica incolumità, solo sull'asse della Lungo Irno abbiamo piantumato 500.000 platani. Sì, e poi che è successo? Quindi sicuramente le passere d'Italia avranno motivo di conforto, cioè, da questa nostra considerazione molto semplice, ma che credo le passere avranno già colto prima di Italia Nostra, perché fra il sistema dei parchi urbani che abbiamo realizzato, sì, e mi riferisco proprio specificamente ai platani che abbiamo piantumato, siamo anche in questo la città più verde e ambientalista d'Italia. Hai visto il tono? Siamo la città più verde e ambientalista d'Italia. Faccio sommessamente notare le passere d'Italia. Esatto, sull'utilizzo del termine. E 3 volte l'ha utilizzato, passere d'Italia, signor De Luca. Sommessamente. Pigliando per il culo Italia Nostra che ha scritto le passere d'Italia. Ma perché Italia Nostra rompe i coglioni al sindaco di Salerno? Perché sono stati tagliati 4 platani. Però Italia Nostra si occupa di questo. Ma sì, vabbè, 4 platani, non rompete i coglioni. Noi nel mezzo non sappiamo. Francesco da Venezia. Sei pronto? Ciao. Dimmi. Ciao Parenzo. Vi ricordate il metalmeccanico che faceva la parodia di Parenzo? 5 stelle, è impossibile. 20 milioni. 20 milioni spesi per tre cose, per i boscaioli, i siciliani, ma è possibile, vi ricordate? Bah, sì, più o meno. Allora? Sì, beh, lo sto dicendo, una gran cagata che hanno fatto spendere 20 milioni per rimborsi di trasferte per far pagare della gente in Sicilia. Ora, qual è la mafia? che si mangiano i soldi e fanno passare. Non ho capito cosa è successo in Sicilia. Innanzitutto sento un rumore, lei sta lavorando in fabbrica, Francesco? Bravissimo, adesso me ne vado fuori un attimo così facciamo. Ma che fabbrica è che non mi ricordo più, scusi? È una fabbrica di che facciamo metalmeccanico. Metalmeccanico, sì. Entrare e uscire. Beh, ottimo questa cosa. Lei già sta con le cuffiette, no? Se non sbaglio. Bravissimo, bravissimo. Allora, sì. Dicendo, questo esce. Ma sti 20, sì, ma sono fuori. Sono sì. 20 milioni. No, ma si può entrare milioni. E uscire così? Sì, il turno così, sono, il turno. Sono in turno, bravissimo. Turno avanti, libero, va. Sì. Vabbè. Bravo. Allora, 20 milioni. No, bravo, però... Le dico solo dai. Questo, il signor Cruciani, se io abbandono un attimo, non è che dice, vabbè, bravo, però, perché il signor Cruciani... No, vado a fare il pausa. Perché non posso andare anche in pausa, posso fare i cazzi miei. Comunque... Ma scusi, ma vado in pausa anch'io, allora. Ma scusi, metalmeccanico sta lì al tornio, sta lì al turno a fare il suo lavoro lì, non è che abbandona così il turno per andare a parlare con la zanzara. No, io sono davanti a una macchina, ma sono fuori a un portone, non si preoccupate. Vai, faccia quello che... Lei può fare quello che vuole. Diciamolo chiaramente, i metalmeccanici in fabbrica possono fare il cazzo che vogliono. No, vero, no, dai, no, no, attenzione, io sono in turno di 10 minuti, attenzione, mi fermo un attimo per 10 minuti. Ah, lei no, turno. Sono in pausa di 10 minuti. Beh, lo decide lei quando. Ha ragione. Bravissimo. Allora, questo rimborso dei 20 milioni ai boscaioli, che sono? Ai forestali della Sicilia, di un paese della Sicilia. Com'è possibile? Com'è possibile fare una cosa del genere che poi siamo noi che ci lamentiamo? Ma non abbiamo neanche i soldi per pagare le tasse. Ma lei di che sta parlando? Dei forestali? Dei forestali in Sicilia? Bravissimo. Hanno chiesto un rimborso di 20 milioni, ma 20 milioni. Cioè, neanche l'Unione Europea li ha considerato come un abuso. Cioè, è impossibile che si possa spendere questi soldi qua. Ma allora, o sono gonfiati, perché o sono gonfiati, o loro hanno un numero di persone che lavorano forestali che, non so, ci saranno gli elfi, avranno i gnomi, avranno i sette nani che vanno in giro. Che ci sono 28.000 guardie forestali, ci sono più guardie che alberi. Tutti in Sicilia. Ma sì, però Crocetta ha tagliato i rimborsi a questi forestali, e li ha un po' tagliati questi rimborsi. Sì? A quanto li ha rimborsati? A quanto li ha tagliato lui? Quanto ha tagliato? Ma poco, però ha tagliato. Sembra che abbia tagliato, poi sa, cioè... Ma l'Unione Europea ha tagliato, perché altrimenti col cazzo che tagliavano loro, si spartiscono i soldi tra di loro, è la mafia, io non posso pensare a una cosa del 20 genere. 20 milioni di euro l'anno per la benzina, questa una delle voci dei rimborsi d'ora ai forestali della Regione Sicilia, capito? Allora, voglio capire una cosa, cioè, qualcuno non pensa al governo, qualcuno che dice, aspetta, facciamo un attimo una visione 26.000 addetti, 15.000 più gli operai antincendio. Ma vengono assunti come? Con la lotteria? A Supernalotto. Non mi faccia parlare, sennò veramente sbrocco. Do di matto di fronte a questa cosa. Do di matto. Scusami, dimmi. Torni a fare il turno, Francesco. Sennò mi torna incazzato lì al turno. Sono già incazzato abbastanza. No, mi torna in camera. Lei che perché dica? Lei che deve parlare, mica io. Ah, ok. Allora, voglio dire, cioè non è possibile che non ci sia nessuno che sia d'accordo con una cosa del genere. Adesso si accorgono l'Europa, l'Unione Europea, dicono no, non è possibile, non possiamo darsi i soldi. Meno male, ma io vado con bazooka e li ammazzo uno alla volta. Ah, lei va col bazooka e ammazza uno alla volta per forza, forestale. Ma scusa un attimo, Cruciano, ma prova a pensarci un attimo. Ma tu vai a pagare, tu che sei... Ma bisogna commissariare, allora, tagliare, mettere sulla strada un sacco di gente in Sicilia. Solo così si risolve la situazione. Mettere sulla strada un sacco di gente. A farli lavorare, non metterli a fare, perché anche io qua ho una guardia forestale che la conosco, ma questi qua pattugliano, sono in due che vanno via con una gippetta al fine settimana, mezzo volontari e mezzo pagati, e loro fanno, sono in due, ma non sono in 50.000. Io penso che sono pagati anche gli elfi che vengono fuori dal bosco. L'elfo cretino, dai 1.000 euro al mese, va benissimo, ma non è possibile una cosa del genere. Io voglio dire, non è possibile che io mi sto facendo il culo, i turni, per pagare la gente di merda, e te pagano, mettono anche il TASI. Ma il TASI è un cazzo, io devo lavorare per pagare le tasse giuste, non pagare i quattro merde che devono... Bravo, lei ha ragione, E faccio metà meccanico, i turni di notte, mi devo rompere i coglioni. E faccio fatica arrivare a fine mese, ma vaffanculo, scusami, Cruciani, mi sono... No, curato. Francesco, ha fatto bene, torni al turno adesso, che sennò... Ciao. Antonio Savona, buonasera, Antonio. Buonasera, innanzitutto vi dico che faccio parte di una di quelle categorie che voi adorate, guido mezzi pesanti, quindi massacratemi. Vorrei commentare... Ma che senso, scusi? Che guida lei? Cosa guida? Guido camion. Ma è un sacco di camionisti, ci seguono, noi siamo contenti, siamo molto contenti. Più camionisti, meno Renzo Piano. Più camionisti, meno Renzo Piano. Ma io sono incazzato con Renzo Piano, perché sono incazzato, che devo fare? Ma se Piano ti ascolta, dici no. Ma non me ne frega niente se mi ascolta, deve rinunciare a fare il senatore a vita, non ha nulla con te, basta, si dimette da senatore a vita, non fa niente, non ci vale. Perché deve fare il senatore a vita? Dai, basta, meglio i camionisti. Ma è un... Ma che c'entra? No, perché non fanno un camionista, senatore a vita? Una bella, ma, un camionista. Ma cosa fa il camionista? Vabbè, sì, per carità. Dai, ma allora... Mi è piaciuto molto il commento fatto in Punta di Fioretto dalla signora Bruna, mi ha colpito tanto, in particolare la parola difettoso, quella mi è sembrata strepitosa, veramente una scelta molto precisa di quella parola. E faccio notare intanto alla signora Bruna che probabilmente il giorno prima di morire, quando sarà malata, sarà difettosa anche lei, perché la signora Bruna stava a notare la differenza di chi nasce in quella condizione. E Mi piacciono in generale le persone che richiamano sempre alla natura. Vuol dire, scusi, che però qui ci stiamo. Di cosa stiamo parlando, Matteo? Antonio, scusi, di cosa stiamo parlando? Sì, la signora Bruna che ha detto. La signora Bruna ha detto una cosa molto semplice. Quella ragazza lì, che è Caterina, che è difettosa, ha usato quel termine. Difettosa, sì. Dovrebbe essere allora... lasciata. Mi ha colpito molto, faccio notare che l'abbia colpita, non c'è dubbio. Dopo sì. Andiamo avanti. Dunque, sì, faccio notare alla signora Bruna, esistono delle belle società dove potrebbe andare a vivere, per esempio nelle foreste amazzoniche, nelle isole Andamane, quelle società dove si è a contatto con la natura da lei invocata, dove il più forte vive, il difettoso muore. Credo che negli ultimi 2500 anni la società sia andata un po' avanti. La signora Bruna, volevo solo farla riflettere su questo. Ma non c'è modo di far riflettere la signora Bruna, è impossibile. Però vorrei fare fuori dall'ironia un complimento alla signora Bruna, perché una cosa almeno l'ha fatta, si è esposta. Ma guardi, ieri abbiamo sentito la saga dell'odio qui, la saga dell'odio. Sì. Quelli che hanno attaccato la ragazza che, grazie alla sperimentazione animale, riesce a sopravvivere, ancora a sopravvivere, e quelli che hanno attaccato Bersani. Ma gente che si presentava nome e cognome, non è vero che nel web ci sono persone anonime, persone con nome e cognome che ne dicevano di tutti i colori su Bersani, ha fatto quello, allora merita di morire, delle cose pazzesche abbiamo sentito, grazie. Oh, io però devo dire una cosa, Parenzo, mi sono veramente stufato del fatto che a ondate in Italia... Sì. E scoppiano delle polemiche e si riaprono dibattiti che sono stati già discussi per anni e anni. Anni e anni. Questo è un grande classico. Prendi le coppie omosessuali. No, l'altro giorno, io quasi quasi non ne parlo più, io qua alla Zanzara siamo stati tra i primi a essere a favore del matrimonio, dell'adozione e tutto, no? Cioè lo proclamiamo, lo diciamo in tutte le salse, eccetera. L'altro giorno c'erano delle pagine dei giornali in cui c'erano delle opinioni che si potevano tranquillamente leggere 10, 15, copia 20 anni fa. Certo. Ma delle cose. Ma prendi adesso la polemica sulla legalizzazione della marijuana. Sarà uguale. Innescata da un consigliere leghista che ha fatto benissimo, per carità, con una divisione all'interno della Lega. Oggi parlano alcuni esponenti di Rifondazione Comunista, in parte anche il Partito Democratico, ma si ripetono le stesse cose da anni, con il Ministero della Sanità che dice che la cannabis fa male, le stesse identiche divisioni. Risultati? Zero in un campo e nell'altro. Vabbè. Abbiamo con noi Pippo Civati, buonasera. Oh. Buonasera. Come andiamo? Molto bene. Meno male. È stato a trovare Bersani, sì. Ho letto che sta attraversando un periodo zen. Come zen? Sì, io sto aspettando di sapere qual è il sistema elettorale, la legalizzazione delle droghe leggere, i matrimoni egualitari. Dunque, come voi, sono in attesa. Sì, noi stiamo aspettando ormai da anni. Aspetta, però, spera. Una settimana, no? Sono tutte settimane decisive qui, la legge elettorale, questo e quell'altro. Hai notato che usano subito la legge elettorale? Subito la legge elettorale. Sì, facciamo anni che l'aspettiamo. Beh, magari la volta giusta, magari la volta buona, magari Renzi c'ha la bacchetta magica. Sì, vediamo se ce l'ha, meglio per tutti. Se non ce l'ha, sono guai. Ma ce l'ha o no? Vediamo. Dov'è sta bacchetta? Ce l'ha o no, secondo lei, la bacchetta magica? O è troppo berlusconiano? Cioè, anche nel modo di verificare. Potremmo verificare nei prossimi giorni, credo. Beh, sì, anche se poi... Però torniamo alla polemica principe di queste ore. È un po' faticoso, lo so, è un po' stancante questa cosa di Fassina. Però io ho difeso Fassina nei giorni scorsi, anzi ieri per l'esattezza, perché credo che al di là delle posizioni politiche legittime di Fassina, ovviamente tutto fa politica, e mi stupisco di chi si stupisce che la posizione di Fassina sia politica. Ti credo, che deve essere? Cioè, cioè i renziani dicono è una posizione politica. Beh, certo che è una posizione politica, e tutto è politica. Allora, un segretario che si rivolge in quel modo a un rappresentante del tuo partito al governo, vice ministro, dicendo sostanzialmente Fassina chi, anche se poi qualcuno ha parlato di bufala giornalistica, ma in realtà è esattamente questo. Lei come lo definisce questo segretario? Ma io ho avuto modo di rispondere con un civati chi, mi sono auto fatto la battuta. Hai anticipato quello che potrebbe ho accadere? Ho anticipato, nel senso è chiaro che è stata una caduta di stile, l'ho già commentata così sui giornali il giorno dopo. La posizione di Fassina è una posizione politica nota, la contraddizione era che lui fosse al governo, non che sia andato via, perché era in grande attrito da tempo con altri doveva ministri, farlo prima, con adesso. Lo schema. E quindi non è una grande novità, si poteva accompagnare con parole più sobrie da parte del segretario. Ma c'è l'intento di Fassina di fare un po', no? Di mettere Renzi di fronte alle sue responsabilità, cioè o ti imbarchi in questo governo oppure la fai finita, che è una cosa abbastanza chiara questa qua. Se il PD deve stare al governo, ci stia anche con i renziani che fanno loro la parte e magari si pigliano i pesci in faccia quando è il caso di prenderseli, o no? Non deve dircelo Fassina, nel senso che dovrebbe essere ovvio. Anche a lei non sta simpatico Fassina, mi sembra. No, nel senso non ho nessuna antipatia personale, non ho capito perché abbia fatto per 6 mesi il viceministro convincendoci della bontà dell'operazione per poi uscirne un po'. Questo è vero, nessuno si aspettava, per esempio lui che era stato un bersaniano di ferro, contrario alle larghe intese, più volte aveva detto no al PDL, eccetera, eccetera. Lei dice perché ha fatto allora il viceministro, no? Ma insomma, cioè, poteva dimettersi prima. Sua. Il problema è quello che dicevi tu prima, cioè Renzi vuole questo governo fino al 2015, vuole rafforzarlo, vuole indebolirlo, e questo è un tema politico di questi giorni. Ma secondo te che cosa vuole fare? Non è che me lo chiedo io, lo chiediamo a te allora. Cosa vuole fare veramente? Vuole indebolirlo o vuole rafforzarlo? Dimmela tutta chiaramente. Secondo me sarà portato, per non dire costretto, a rafforzarlo. Ah, così, Ma però vorrebbe indebolirlo. No, è che è chiaro che per Renzi c'è una finestra temporale che più è breve meglio è, credo, di poter dire. Vabbè, però adesso non parlare in politichese pure tu, Pippo. Allora, dimmi, lui lo vuole indebolire. Il segretario del PD, sai com'è? Lo so, però religioso. Ma non è che rispetto, non è che hai paura pure te della mannaia di Renzi, no? E che gli fa? Fino a poco tempo fa volevi fare addirittura il vice di Renzi, era una battuta che hai detto qua, eccetera, però non ti sarebbe dispiaciuto fare il vice di Renzi, è un'ipotesi impossibile. Ti ha chiesto qualcosa Renzi? No, infatti, come ti avevo detto già allora, non me l'avrebbe chiesto, era un gioco che facevano tra di noi. Non ti hanno chiesto nulla? La nuova, diciamo, i nuovi mandarini del PD? Ma nulla. Io non sono funzionale, come si dice in politichese. Cioè, perché sei uno che rompe i coglioni, diciamo la verità. Più o meno la traduzione potrebbe essere quella. Però tu diresti mai Fassina chi a qualcuno? Cioè, a un tuo avversario politico, diresti mai una cosa di questo tipo? Per non essere ipocrita potrebbe scapparmi, ma forse me ne accorgerei, non difenderei la battuta se non mi è venuta bene, ecco. Beh, però appunto Renzi dovrebbe. Ma lui dice che fa politica anche così, con le battute, non si può rinunciare alle battute. Ma ora è il segretario di un partito. Sì, ma infatti posso dire una cosa: in tutto questo dibattito la sorpresa è sbagliata sia nei confronti di Fassina sia nei confronti di Renzi, perché non è la prima volta che Renzi fa battute o è molto veloce nello Cioè, di che si sorprende Fassina? Cioè, ha colto la palla al balzo per andarsene, questa è la realtà. Secondo me un po' sì. Un po' sì, perché un conto è fare il sindaco di Firenze, un conto è il segretario di un partito. Io poi sta cosa del ruolo suo l'hanno votato 2/3 degli elettori del PD anche sapendo che era così, o forse proprio per quello, non lo so. Tanto oggi io non ho votato Renzi. Intanto oggi questo qualcuno ha detto, mi sembra in una trasmissione dove c'eri pure tu, che a Berlusconi piacciono i tipi come Civati. Io non so se tu hai notato questa cosa, se magari hai toccato ferro o qualche altra cosa mentre eri lì. No, ma la cosa è di qualche giorno fa, pare che l'abbia detto in una cena. Io sono andato dall'analista per qualche giorno. Sentiamo, Romani l'ha detto questa mattina in realtà, però forse riportava la cena. Sì, riportava una cosa più. Sentiamo Romani, Paolo Romani, Forza Italia, questa mattina la Raghettira, che ha detto una cosa su Civati. Civati sicuramente corrisponde, lombrosianamente parlando, all'identità. Diciamo che Berlusconi è in testa rispetto. No, non mettere Lombroso e Berlusconi nella stessa frase. No, perché lui ha un'idea, un'immagine estetica di chi debba fare politica, che deve essere una persona piacevole come lui, carina, disponibile, sorridente, e si presenta anche bene. Allora, ma che hai fatto? Beh, questo sarebbe veramente. No, che hai fatto? La battuta tra Lombroso e Berlusconi ci stava. Sì, sì. No, verrebbe da dire, ma allora perché ha scelto te rivolto a Romani? Però insomma, questo sarebbe stato forse un cattivo. Infatti, appunto, capisci la preoccupazione anche insomma dei miei familiari. Sono stati giorni difficili. Ha scelto Toti, però, eh? Ha scelto Toti. Alla fine sì, ci alla sono fine... rimasto un po' male, ma vabbè. Ma Toti secondo me è adatto a fare politica? Posso dare una notizia sconvolgente? Non lo conosco, non so come, non l'ho mai sentito. Cioè Toti chi? Toti chi diresti? No, nel senso che non ho il piacere di conoscerlo, per cui me lo chiedevo proprio oggi leggendo questa agenzia che dicevano così. Sì. Non l'ho ancora potuto valutare. Cioè non sai chi è in realtà? Non ho avuto modo di apprezzarne le qualità politiche, vedi come sono più attento. Prima per forza l'ha mai fatta, cioè giornalista, direttore. No, vabbè, che c'entra? Ha fatto... No, ma dal punto di vista politico, sì, ho capito. Intendo dire, non so. No, cosa, no, prima hai detto un'altra cosa, non so chi è, hai detto non so chi è, dai, su. Non è vero. Ma come no? Hai detto, ma guarda che non c'è mica, non c'è niente di strano dire... No, non ho detto che non so chi sia, che non ho mai sentito parlare di politica, non so se sia un falco, una colomba, un mediatore, un... Ma pare un mediatore, pare un mediatore, ma figuriamoci se Berlusconi alla fine sceglie un falco come vicepresidente o coordinatore, no? A parte che qualsiasi persona scelga Berlusconi di per sé non può essere il successore di Berlusconi, a mio parere, cioè, perché comunque non lo so, io penso che alla fine sceglieranno Marina. Ah, alla fine sceglieranno Marina, eh? Sì. Beh, dici, ma com'è che fai questa... Se si va a votare presto. Ah. Comunque, perché... io credo che Civati voglia che l'Italia si trasformi in un grande Uruguay. Cioè, ti piacerebbe l'Italia come l'Uruguay? Diciamo la verità, Civati. Adesso, tornando alla questione più importante, non queste cazzate di Fassina, Renzi, eccetera. Tu sei in una situazione zen, ti stai occupando poco, mi sembra, del partito, non fai molte uscite, sei arrivato terzo alle primarie, alla fine sei così, in una fase di meditazione, no? Di meditazione. Osservi da lontano quello che accade e poi chissà che cosa succederà. Scissione non se ne parla, non è che vuoi uscire dal Partito Democratico, per carità, non fare questa minchiata, no? No. Ma non è così, in realtà sto lavorando su un po' di cose, tra le quali anche la legalizzazione. Sì, oh, benissimo, allora, ma vogliamo dire che l'Italia... Non da ieri, diciamo. Sì, no, questo lo so. La gaffe della Lega per la prima volta è una gaffe positiva. Assolutamente positiva. Vedi che anche loro ogni tanto... Assolutamente positiva. Ogni tanto la imbroccano. Ogni tanto c'è luce anche nella Lega. Su questo tra un rom e un altro ogni tanto dicono... No, ma questa cosa qui di Fava è molto positiva. Ma guarda che molti leghisti in realtà, la base leghista, quelli dei giovani, sono tutti, se fanno le canne la mattina alla sera. Questo io lo so, ma te lo dico io conosco un sacco che si fanno le canne, si sono fatti le canne, ma a parte questo sono a favore della legalizzazione. Ma insomma, l'Italia può essere, secondo te, cioè sogni l'Italia come l'Uruguay, diciamo la verità, o almeno la Lombardia? Ma sognare l'Uruguay ha fatto una cosa molto avanzata. Io penso che noi potremmo incominciare a cambiare la fine Giovanardi e a consentire l'uso personale delle droghe leggere, questo sì, senza... Beh, no, come la droga di Stato, la cannabis di Stato è fondamentale, altrimenti dove altrimenti la vendono sempre gli scagnozzi per strada, scusa, o no? No, infatti stavo arrivando lì che alcuni passi si possono fare anche subito. La Fini Giovanardi è una legge da cambiare, no? E da riguarda anche l'uscita della Lega. Poi c'è il fatto che se uno si coltiva la sua marijuana, non capisco che reato commetta, sinceramente, e poi certo si può arrivare anche a sperimentazioni farmaceutiche, diciamo così, nel senso che ci possa essere la vendita in farmacia, perché no? Sì, lo so, Parenzo, l'ho detta grossa e continuo a ripeterla. Me la sono fatta dire ieri da Razzi. Io preferisco Razzi a Piano, lo so, l'ho detta grossa e la ripeto ancora una volta. Ma non è che è grossa, è che hai proprio il gusto. Tu sei chi voti come sei chi mangi, capito? Tu sei quella roba lì, ti piace quel gusto lì, quel sapore però, là. Scusa, io tra i tre candidati alla segreteria del Partito Democratico alla fine avrei votato per Civati, perché quando sono andato a vedere il confronto quando l'ha saputo se ha toccato ferro da qualche parte, comunque mi era sembrato quello più chiaro, sul matrimonio gay e su altre cose, ancora quello più di sinistra. A me non è questione ma di sinistra, ma anche più adatto a fare il segretario del partito, ma non lo so, quello insomma. Non lo so, ma comunque quello più chiaro anni, sì. Rispetto alle ambiguità degli altri due, però tra Piano e Razzi, uno che non va mai al Senato e uno che ci va sempre, vabbè, è Razzi, d'accordo, non parla italiano, parla un'altra lingua, parla abruzzese, però parla anche tedesco, parla inglese, eccetera eccetera, e Razzi, uno che sta là, si fa un mazzo così, sta al Senato, va in Corea, cerca di portare la pace tra le Coree, adesso cerca di portare la pace tra le Coree, io preferisco, ripeto, preferisco razzi tutta la vita, perché poi non mi piacciono quelli che fanno gli architetti bravissimi eccetera, però poi accettano magari che siano della vita così e non vanno mai in Senato. Io lo dico perché non me la voglio prendere con lui, qui siamo nel palazzo di Piano, appunto. Ma è un architetto straordinario, una persona che dà lustro all'Italia sicuramente, appunto. Ma ho capito, ma non c'è bisogno di fare il senatore a vita, non c'è bisogno, glielo voglio dire in faccia, glielo voglio dire gentilmente, glielo voglio dire, lo stai dicendo da mesi, ma glielo voglio dire, ma voglio che anche risponda alle nostre domande, signor Piano. Signor Piano, perché lei continua a fare il senatore a vita? Rinunci, non va mai al Senato, rinunci. Vabbè, Civati è una cazzata, Civati, quella che dico io. Adesso, al di là del paradosso su Razzi, è una stronzata, un'esagerazione, una crucianata, oppure c'è qualcosa di sensato, no? No. Io continuo a preferire Piano a Razzi, se può. Se devo essere una preferenza. È politicamente corretto. No, è una persona normale. Ma no, ma è il politicamente corretto che impera, su. Dopodiché, se uno sceglie di fare senatore a vita, ci deve andare. Potrebbe essere più presente. Urlarlo. Dico due volte al mese, dico non tanto, due volte al mese, non è che deve avere il 100% delle presenze. Scusami, tra un impegno e l'altro, caro senatore Piano, potresti passare anche a Palazzo Madama. Ma una volta fai un discorso magari, no, Civati, fa un bel discorso, sì, magari, così ci fa sapere il suo verbo. I discorsi di Piano sono molto belli, insomma, quando parla di alcune cose del vivere civile, non solo del suo settore, diciamo così, è molto ispirato, quindi assolutamente per ascoltarlo. Potremmo anche trasmetterli noi in questa trasmissione, questo discorso integrale del signor Piano. Senta, io vorrei capire, dietro il volto gentile dei renziani e ogni tanto anche di Renzi, non è che a partire da questi episodi di Fassine, ma anche da altri episodi, non è che si nasconde un volto, cioè, tipo, il diavolo veste Renzi, tipo storace Purator, no? No, non credo. Vediamola alla prova, però, adesso al di là delle battute, vediamo se l'accelerazione che ha dato al dibattito porta da qualche parte, se la direzione del partito avrà chiarezza rispetto al tema che dicevamo prima, cioè quanto deve durare il governo, se ci investiamo, se non ci investiamo. Insomma, questo a me interessa di più, insomma, del dato caratteriale. Ma non è un po' paraculo presentare tre proposte di legge elettorale? Io avrei preferito, anzi io l'ho presentata durante la campagna delle primarie, era una delle tre di Renzi, quella del Mattarella, del Senato, sì, senza troppe modifiche nel mio caso. Appunto, dico, non è presentarne tre, non è, non è come non presentarne nessuna, secondo me sì, è come non presentare alcuna legge. Presenti lo spagnolo e il Mattarellum, e che l'altra che era? Lo spagnolo, il Mattarellum, sì, la gente... Sindaco d'Italia. Sì, il sindaco d'Italia, che è chiaramente impossibile, che bisogna cambiare la Costituzione. Ho capito, tre è come presentare tutte le leggi elettorali in pratica, no? Beh, lui ha voluto fare più che altro riepilogo delle puntate precedenti. C'è da capire se c'è una posizione condivisa. Sul Mattarella ci c'è il Movimento 5 Stelle e SEL. Scelta Civica e centristi mi sembra che preferiscano il sindaco d'Italia, anche perché allungherebbe i tempi probabilmente. Ah certo, non c'è dubbio. E invece Berlusconi, se non ho capito male, preferisce lo spagnolo. Alla fine si farà un pastrocchio, questo è il mio timore, che si farà un pastrocchio. Questa è la mia opinione. Non lo so, vediamo. Comunque tutti dicono che la fanno subito. Veramente. Comunque, caro Civati, ci riaggiorniamo presto allora. Ma non ne sembra un po' berlusconiano in queste cose, Renzi, quando fa con questo piglio su Fassina e su altre cose? Le sembra, non ha qualche... Secondo me è renziano. È renziano, cioè lui. Lui è così da sempre, ripeto. Il motivo per cui l'anno scorso le primarie non andarono bene era che non c'era una presenza di Bersani più rassicurante, più rappresentativa. Questa volta ha vinto Renzi, però dichiaratamente, quindi io che ho concorso lo dico con molta serenità, ma è così. Scusi, la caccia, noi ogni volta glielo ripetiamo, ci può dare un nome di queste 101 maledetti? Non è possibile che dopo tutti questi libri, cose scritte su... No, ma ieri Renzi Brown ha detto che li sta cercando, anche lui. Pure lui li sta cercando, ma non è che deve cercare in casa sua, no? No, beh, insomma, è casa nostra di sicuro, perché il PD è casa di entrambi. Appunto, ma in casa sua c'è... Abbiamo uno seduto di fianco ciascuno di noi. A fianco di ciascuno di voi c'è sicuramente uno dei... Vabbè, per forza, perché i numeri... Siamo nella fila, per forza. Per forza. A presto! Saluti! Grazie, a presto. Ciao, buonasera, ciao. Arrivederci. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte. Cristoforo da Novara, Cristoforo. Buonasera. Buonasera. Volevo intervenire su quella battutina poi che fece Parenzo sul discorso dei senatori a vita, no? Sì. Ecco, si ricorda che quando lei ha detto al camionista, allora preferirei farlo fare al camionista che non a Piano. E Parenzo se n'è uscito così, diciamo, in automatico con la sua frase stupida, no? Che secondo me ha detto una grande stupidata, perché cos'è, voglio dire, detto, è vero che lui, Parenzo, dice, beh, ma che è il camionista che fa? Come, ma lei dire, fa il camionista, sai, Cristoforo? Io faccio il camionista, il nome è tutto un programma, no? Cristoforo, vabbè, che c'entra, Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo, no, è protettore degli autisti. Ah, è vero, non lo sapevo. Ma io non ho niente contro i camionisti, ma sarebbe sì, un lo so, Parenzo, era... Anzi, ho detto, siccome odio questo paradosso che Cruciani ci propina dal 2013, per cui Razzi sarebbe meglio di Renzo Piano per fare il senatore a vita, mi sono permesso semplicemente di ricordare questo. Ma che il camionista, benissimo, il Parlamento che è il camionista, ottimo, ci sono gli operai, ci sono i giornalisti, ottimo, certo, figuriamoci. Certo. No, io l'avevo capito diversamente proprio per il tono, sa? Che poi si è accorto lei stesso, se... Diamoci del tu, se si può. Ma ti sei accorto te stesso di avere, hai fatto il passo indietro? Ma no, no, diciamola, ho fatto tutta, nessun passo, no, nessun passo indietro ho fatto. Sì, io Cruciani, secondo lei, chi ha ragione? Io preferisco Piano. Non lo so, preferisco, io preferisco Piano un camionista, Razzi, un su questo non c'è dubbio. Ma chi c'è il camionista? Fa il benissimo. E invece quello fa l'architetto, uguale. Ma certo, ma è quello che uno fa che conta, no? Cosa rappresenta, esatto, anche? Cosa ma fa? Non ho capito, perché un camionista non può fare il senatore a vita? Perché? Ma perché può fare il parlamentare, il senatore la farà per me, in genere i criteri. Ma per perché non può fare il senatore a vita un camionista? Ma può razzista, anche farlo. Sei un razzista. Ma può anche farlo se ha dei meriti, certo, perché si è distinto nel suo lavoro. E beh, allora sua... appunto, no, ma secondo, certo, secondo me invece no, non lo può fare, lo devono fare gli intellettuali, lo devono fare gli industriali. Ma chi ha mai detto? Lo devono fare gli industriali. Sì, lo devono fare gli industriali, gli scienziati, sulla base di un criterio, no? Non è quello che piace a te, dice, a me piace il signor. Dimmi. Che c'è? Sei la rovina di questo mese, salta fuori anche. Che c'è? Non ha più detto niente. Allora, Cristoforo, non ho capito. Posso dire la mia? Sì, dimmi. In un certo senso non ha torto Parenzo, perché giustamente senatore a vita deve essere una persona che ha fatto qualcosa di eccezionale. Ma anche, anche Cristoforo avrà, se ha dei meriti riconosciuti. Mi faccia finire, però, Parenzo. Mi faccia parlare, che ho poco. Prego. Non ho la fortuna di parlare tutte le sere come lei. Scusa, prego. Secondo me, in quel senso hai ragione. Nell'altro senso, non è piaciuto il tono. Perché il tono è stato un po' da, come si dice, da casta, no? E quello non è giusto. Perché io dico, tante volte un camionista, magari io, mi sento di aver fatto parecchio per il mio paese. Ma sì, cioè, ma qui nessuno mette in dubbio. Perché il camionista fa molto per la nazione, per il paese. Ma non fa c'è dubbio, ma chi lo mette in dubbio? Anzi. Poi, giustamente, lei ha ragione quando dici, tu hai ragione quando dici, il senatore a vita deve essere uno... che ha fatto qualcosa di eccezionale, perfetto, però è il tono spontaneo, no, che si è distinto con cui sei per qualcosa, che non è da uomo di sinistra, poi mi spiego? Si può discutere. Vabbè, Cristoforo, mi spiego, perché poi io dico, ci sono tanti camionisti magari che non hanno cultura ma hanno molto più buon senso di molti senatori a vita. Abbiamo capito, Cristoforo, siamo d'accordo. Questa trasmissione è assolutamente geniale. Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende isterico. Tu sei come una piccola zanzara che la notte mi consuma, mi rende isterico. Aspetta. Telefonata a sorpresa. Pronto? Sì? Sì, buonasera. Buonasera. Disturbo? No, mi dica. Senta, volevo sapere, lei è il signor Kim Jong? No, il marito. Come il marito? Ah, la signora Kim Jong. Sì. Ah, mi scusi. Ah, perché no? Mi scusi. No, volevamo sapere se era vera questa storia dei cani. I cani? Sa che i cani... Sa che è successo in Corea, no? Sa che è successo in Corea del Nord? Che hanno... Dello zio. Lo zio. Il dittatore che ha fatto sarebbe stato... Sì, ma quella è la Corea del Nord. Ah, cioè, quella è quella. Mia moglie è la Corea del Sud. Ah, sua moglie è Corea del Sud. Ma è vicino però. È vicino però, no? Sì, vicino però. Non c'entra niente. No, sono due cose come quando c'era la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest, chiaro, che quelli se si spostavano di un metro gli sparavano. Però cioè, voi siete i buoni sostanzialmente. Cosa? Voi siete i buoni, dico. Io no, mia moglie forse. Sua moglie, per carità. Però scusi, è strana sta cosa che uno si diffonda la notizia, l'ha detta anche lei questa dei cani, no? Marito della signora Kim Jong-min. Sì. Beh, è pazzesca questa cosa, sarebbe stato... La cosa, aspetta, come si chiama? La programma adesso... Radio 24? No, ma no, che no. Radio 24? No, no, è un sondaggio. È un sondaggio telefonico. È un sondaggio, ma no, per carità, per carità. Ma si figuri se Cruciani e Parenzo telefonano. Cruciani, ma io no, la sempre. Ma figuriamoci, no, signor, no. Signor Kim Jong. È una trasmissione bellissima. Ma guardi, signor Kim Jong. Dal lavoro me la sento, ecco. Con tutte le cazzate che dicono, però è piacevole, guardi. È una Scusi, cosa marito della signora, marito della signora Kim Jong. Adesso voglio dire, secondo lei è vero che lo zio del dittatore nordcoreano è stato gettato in pasto ai cani? Ma non è una persona informata, perché? Ma quello lì ha fatto ammazzare l'ex fidanzata, quello fa quel che cazzo vuole, c'ha un potere che fa paura, c'è piena di militari, una cosa paurosa. Paurosa, paura. Quando gli danno la mano non lo guardano neanche in faccia, si inchinano. Cioè è un terrore pauroso quella... No, ma dico, la sua signora non è parente del dittatore spietato? Ma no, ma chi sì, mi... è la nipote, ma... è la cugina del dittatore. Cioè quello che è morto sì. Era lo zio. Ma di sua moglie? Sì, ah. Questo qui è il cugino, il dittatore. Ma una scusi un attimo, cioè, signor Kim Jong, ma come mai lei si è sposato una coreana? Scusi, per curiosità. Io sono Franco Battaglia, c'ho un'agenzia di modelle, c'ho... Ma signor Battaglia! Signor Battaglia! Beh. Se guarda su Google c'è 80 pagine su di me. Ma come no, certo, ma lo so benissimo, signor Battaglia, come no? Beh, ma scusi un attimo, anche allora bruttino che dalla ci foto sta dicendo che Google. Sua moglie è una modella? Mia moglie è una modella, l'ho conosciuta su un set fotografico. Siamo al top, maestra di karate, secondo Dan, cattivissima. Cattivissima, proprio. Ma è stato candidato anche con Forza Italia, Franco Battaglia. Cosa? È stato anche con Forza Italia lei. Ma sì. Certo. Siamo al top qui. Siamo però al top. Adesso non lo so se votare per Grillo, non si capisce più niente, guardi. Non si sa per chi battaglia, votare. Quindi, si è sposata la coreana. Come Battaglia, signor Franco? Beh, no, si è sposata la modella coreana, certo. Che la coreana si è sposata. Beh, chiaro. Ma devo dire che i coreani sono un po' come i tedeschi, molto precisi. Sono delle. No, ma lei ha ragione. Io sono stato a Seul, è un'altra camminata lì, è tutto militarizzato. Tutto tecnologicamente, è stupendo. Cioè, è stupendo. La gente lavora 12 ore al giorno, per quello hanno un PIL del 6%. Noi ma si fanno un mazzo così, noi facciamo un cazzo da mattina alla sera. Beh, esatto, diciamola tutta. Cioè, mia moglie dice: ma come fai con tutte le tue aziende che lavorano, dovrebbero lavorare 8 ore, poi 4 ore si prendono il caffè, e stanno al telefono, vanno su Facebook. E come fa a produrre un'azienda? Ma sì, ma è una cosa pazzesca. Tutti vanno il caffè, le gomme, è una cosa pazzesca, dai. Vabbè, Battaglia, grazie, a presto. È stato un piacere. Ciao, complimenti per la trasmissione. È un caso, è stato. Noi cercavamo qualche coreano del nord, prima o poi lo becchiamo qualche coreano del nord. No, non esiste. Sono tutti quelli che escono dal nord e gli sparano e li ammazzano. Un cadavere troverete dal nord. Ciao, a presto. La zanzara è quell'odioso insetto. Che carogna che siete, vabbè. La notte perché affonda il becco su di me. Roberto da Milano. Sono arrabbiato io prima. Mi ero arrabbiato con Razzi. Sì. E adesso però. Beh, no, so. Adesso che fa? Si è scazzato. Mi scuso, ero arrabbiato. Volevo dire, io non voglio come italiano pagare lo stipendio a Razzi. E vabbè, bravo. Invece è costretto a pagare lo stesso. Lo paga pure a piano, però. Sì, lo pago pure a piano, giusto, hai ragione. Dai, paghiamolo tutte e due. Tanto sono rappresentanti entrambi della nazione. Io e lei e Parenzo siamo rappresentati da Razzi. Piaccia o non piaccia, anche c'è un cazzo da fare. Anche da Razzi, ovviamente. Ho capito. Ed ma... è rappresentante della nazione. Se cambia. Bandiera, gabbana, partito, gruppo, come mi sembra abbia fatto, è rappresentante della nazione. È il bello del dover stare assieme. Per cui viva Razzi e arrivederci, grazie. Raffaella da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Mi dica, cara. Io l'ho ascoltata prima riguardo all'intervento che ha fatto sul sindaco di Palermo e sulle... Di Salerno, non di Palermo, di Salerno. Sì. Su Italia Nostra. Sì. Guardi, io sono, ho 54 anni, sono iscritta a Italia Nostra quando ne avevo 18. Sì. Benissimo, mica dico che non bisogna iscriversi. No, non credo, guardi, mi creda, io credo di più alla sezione di Italia Nostra, perché a volte tagliare quattro platani, bisogna vederli nel contesto, valgono più di 1000 alberelli messi in un mondiale. Probabilmente quei platani avevano un valore superiore, erano in un contesto urbanistico eccezionale. Sì, ma guarda, Raffaella, adesso la tua battuta, sa, perché iscriversi a Italia Nostra, essere soci di Italia Nostra, ma chi dice il contrario? Fa, ma non dico, ha una sensibilità superiore, ma sensibilità superiore, problema, cara, sensibilità superiore, no, il problema, perché... il problema, sì, no, al di là del platano, delle passere, lei non è che è superiore rispetto a Italia Nostra, di solito ha una percezione dell'ambiente, del bello, della cultura, sì, certo, che è un pochettino superiore alla media, ma non è vero, ma non è non si scrive, quando mai è superiore la goma, sì, è vero, io glielo dico con tutta onestà. Vabbè, comunque, guardi, la inviterei, guardi, se lei vuole, provi a venire, che ne so, visto che lei è a Milano, conoscerà anche Bosco in Città, conoscerà un sacco di sedi d'Italia Nostra, ci frequenti, venga a vedere che cosa significa lavorare in una sede d'Italia Nostra e prendersi quotidianamente sempre, perché essere ambientalisti qua in Italia, sì, guardi, allora Raffaella, sì, d'accordo, adesso non me ne frega niente a me di questa roba qua, che cosa è stata Italia Nostra, va benissimo, una cosa meravigliosa, stupenda, il volontariato, la gente che si occupa di ambiente, va bene tutto. Io ho preso in giro quella roba lì dei platani, perché quelli hanno fatto una lettera al sindaco, avete abbattuto quattro platani, vabbè, d'accordo, mi sembra che in alcuni casi ci siano delle esagerazioni, hanno scritto questi platani accoglievano le passere d'Italia, eccetera eccetera. Secondo me in alcune cose ci sono delle esagerazioni. Non cara. È vero, perché io le dico, qua sulla via Novara, tanto lei è vicino, no? Credo. No, però lei capisce che se c'è un platano, che se non fosse stato protetto, sì, un platano. Cioè, secolare. Un platano. Quel platano è rischiato di essere abbattuto come minimo almeno 20 volte. Adesso è lì a discutere. Ma va bene, proteggiamo. Ha anche ragione, ma adesso eppure, se quando si è tentato di proteggerlo, le calunnie, i sottintesi, le mezze frasi, quelli di Italia Nostra, ma qui signora mia basta un bubù qualunque per bloccare anche rifare un marciapiede, no, in questo paese, e purtroppo voi, spesso è così, poi l'associazione vostra è meritoria, ma avete bloccato mille cose, dai, avete bloccato mille cose, dovrebbe mettersi nella nostra, ma io vi adoro, non so quante volte io mi sono sentita presa in giro proprio da persone come voi, ma no, ma voi fate un lavoro eccellente, gli ambientalisti sono quelli che si preoccupano, si viene tagliato il ramo, ma non è vero. A volte un albero messo lì, va bene, va benissimo, spesso, ma per, d'accordo, ma... spesso per proteggere gli alberi, ma no, quei quattro platani probabilmente, io ci credo ai soci di Italia Nostra, molto più fiducia, perché loro se l'hanno fatto c'era un motivo. Vabbè, ho capito, ma il sindaco di Salerno non è un cattivo antiambientalista, vero, che ha voluto abbattere degli alberi per il gusto di abbatterli, piuttosto che atti sessuali, cioè è già lì, guardi, aperto come minimo 10 punti. Ma ne renderà conto ai suoi concittadini? Ma ne renderà conto? Ciao tesoro, ciao tesoro, ciao. Loredana da Modena. Loredana? Buonasera, pronto? Dimmi. Buonasera. Volevo intervenire un attimo sulla liberalizzazione delle droghe. Dimmi. Per esperienza personale, io ho avuto un figlio tossico, sì. L'ho visto a 14 anni con lo spitello, sì. L'ho visto a 24 con l'eroina, sì. L'ho visto recuperato grazie a una signora comunità che si chiama San Patrignano. Beh, chi dice niente di male? Chi dice... No, non è, non intendo dire che è male quello che ha fatto mio figlio, intendo dire che trattando con così tanta superficialità il fenomeno della liberalizzazione della marijuana... Chi è che lo tratta con superficialità? Nessuno. Chi l'ha detto? Passando... Posso finire? Sì, mi dica. Facendo passare il messaggio che è normale usare lo spinello e parlando di psicologie terribilmente fragili dei nostri ragazzi... Parlo per esperienza, quindi non è che parlo in teoria. Io non ho né lauree né diplomi. No. Ma avendone visto tanti, e dico tanti, attuando a tutt'oggi volontariato per questa stessa comunità, che per me è, come posso dire, colei che ha salvato la vita a mio figlio. Sì. ed essendo con questa comunità per esperienza, non di uno, di due, di tre, di quattro, di cinque, ma di tot, se queste stesse persone ritengono che il messaggio della liberalizzazione delle droghe, sì, messaggio superficiale su psicologie giovani e fragili, forse è il caso di pensarci in maniera più ma lei non è capisce che, tutto... che ad oggi, mi scusi, nonostante lei stia dicendo il dramma che ha vissuto lei, oggi non c'è legalizzazione. Ma lei capisce che oggi non c'è la legalizzazione e nonostante questo ci sono casi come quello che lei ha raccontato? Capisce, la fa ragionare questo, avuto... io capisco quel che lei dice, perché l'è capitato sulla sua, nella sua vita. Quindi, Pare che nei confronti di questo genere di problema ci possano essere solo due soluzioni, la liberalizzazione o la non liberalizzazione. Forse c'è una legalizzazione, legalizzazione è un'altra cosa, legalizzazione forse è un'altra c'è cosa. Una soluzione e poi delle droghe leggere abbiamo detto, non dell'eroina. Mi scusi, qualcuno si rende conto sull'esperienza di tanti ragazzi che la solita cosa che le canne sono che si comincia le cose, vabbè, la solita mi puttana, perdoni, è la solita cosa perché è la verità, ma se non, è vero. Non sarebbe la solita cosa. Allora sa cosa le auguro? E lo dico con un poco di, come posso dire, di remora, perché è sempre il tossico che paga. Dimmi. Le auguro di avere un parente il più vicino possibile che acquisisce questo vizio. Che ma perché? Perché mi deve augurare questa cosa? Ma lei è una persona orribile. È una, la ringrazio. È una persona agghiacciante. Perché mi deve augurare questa cosa? Che cosa c'entra questa cosa qui? Lei cosa è una persona che ha sofferto. Cosa c'entra? Cosa c'entra? Ma mi scusi, sa, voglio dire, se è... Sì. Sulla pelle di tanti ragazzi, sulla pelle di tante persone, sulla pelle di tanti genitori, drammaticamente presente questo problema. Ma scusi, io perché voglio la legalizzazione della droga leggera, allora sono a favore della droga, del fatto che i ragazzi si drogano, ma dico, è impazzita, io non ho mai toccato una droga in vita mia, eppure sono a favore della legalizzazione delle droghe leggere. E non voglio... Probabilmente perché la sua è un'esperienza teorica e non pratica. Vabbè, ma questa è una... Guarda, guardi, per fare una legge o no, non bisogna mai basarsi sulle esperienze singole, perché altrimenti si sbaglia, quasi sempre si sbaglia, capito? Esperienza singola, stiamo parlando di un numero di persone, vorrei dire, la più alta di tutto il mondo. C'è un sacco di gente, c'è un sacco di gente che io conosco che ha avuto esperienze di droga, che invece è favorevolissima, favorevolissima alla legalizzazione delle droghe leggere. Favorevolissima, cara Loredana. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa. Comunque, caro Parenzo, non ti ho sentito dire qualcosa sul comico antisemita Dieudonné, che in Francia. Che in Francia. No, qui in Francia viene impedito in Francia di dire la sua, di fare degli spettacoli dai prefetti semplicemente perché è accusato di antisemitismo. Beh, Francia infatti è un paese serio. Ah, è un paese... dunque il comico antisemita, cosiddetto antisemita, Dieudonné, non può fare i suoi spettacoli. No, no, in Francia c'è una legislazione dai, per cui chi incita chi incita all'odio non ha diritto. Ma come, ma dai? Ma, viva Dieudonné! Viva Dieudonné! Come lo pronunci? Dieudonné. Eccolo là tutto. Ma viva perché? Cioè, è chiaro viva che... Dieudonné, viva la libertà di espressione. Viva ma Dieudonné. Se lì esiste non una legge votata da un libero parlamento in cui si dice che chi incita all'odio non ha il diritto di salire su un palco e pontificare da un palco, ma questi applicano la legge perché la Francia, a differenza dell'Italia, è un paese serio. Qui da noi invece. Dunque, tu sei a favore. No, io dico che da noi c'è una legge che si chiama legge Mancino che nessuno rispetta, nessuno fa rispettare. Ma tu sei capito? A favore, dai, tu vorresti mettere in galera Dieudonné, questo comico francese, vorresti mettere in galera. In galera no, ma non farlo esibire nei teatri pubblici, sicuro fa a casa vergogna, sua se vuole, che vergogna, nei teatri pubblici che vergogna, fa, perché vergogna. Incita all'odio, ma come che se incitasse vergogna. All'odio nei confronti degli islamici, che nei vergogna. Confronti di qualsiasi altra persona, c'è una legge, in Francia la rispettano, vergognati, questo è il punto. Devi vergognarti, c'è una legge, ti devi vergognare, c'è una legge vergognati. E in Francia la fanno vergognati. Rispettare, questo è la pointe, come dicono loro. No, le pointe, non le pointe. Come le pointe. Le pointe. Pointe. Il punto, però non si dice mai, non si dice mai, questa espressione questo non si usa mai. Questo è il punto. Vabbè, senti, andiamo un attimo in Emilia Romagna, dal consigliere regionale dell'Italia dei Valori, che si chiama Gennaro Marotta. Emilia Romagna. Eh sì, è così. No, in Veneto, scusa, che cazzo dico? Marotta, in Veneto, io in lo conosco. Sì, in Veneto, ho sbagliato, non so perché ho detto Emilia Romagna. Ma perché... sei Veneto, Marotta, io conosco. Ciao, Marotta. Io sono Veneto, ciao, Iuse Padova. Io conosco ben Marotta, mi. Però Marotta. La prima domanda è questa, ma esiste ancora l'Italia dei Valori? Scusa, questo mi domando io. Esiste l'Italia dei Livori era esiste ancora l'Italia dei disvalori? O Italia dei malori ormai? Perché, L'Italia insomma... dei valori esiste ancora. Ecco. Sì. Beh, diciamo che ormai. Poi, vabbè, abbiamo anche noi i nostri problemini. niente. Beh, insomma, ormai credo che ormai si sappiano abbastanza in giro. Scusi, chi è il segretario? Chi è il segretario dell'Italia dei Valori? L'amico Ignazio Messina. Ah, ecco. Segretario. Non mi sembra che Ignazio, come dire, il signor Messina, non mi sembra che. Ma sai che non lo sapevo? Che ah no, perché è vero, è stato il congresso. Folle davanti a sé. Beh, vabbè, no, non mi sembra che abbia. Vabbè, questo è vero. Ne ma aspetta, che voglio atto, vedere su Google che faccia Ignazio. Ignazio Messina. Messina, è fatto cercavi sindaco in di Sicilia. Sindaco di eccolo che? Qua, una faccia simpaticissima già invece. Sì, Ignazio Messina. Sì, Ignazio Messina. Però non appare mai, come mai? Non... Beh, perché? Perché c'è Di Pietro. No, vabbè, Di Pietro. Bisognerebbe domandarlo ai direttori delle televisioni. Ma no, non ma non è quello. Non è è quello. Un gomblotto, vabbè, un gomblotto. È un gomblotto. Perché non lo invitiamo alla zanzara com'è su che Messina? Com'è che fa Di Pietro? Allora abbiamo fatto. E Italia Valori, che Cruciani. Cruciani aveva detto che la trattativa è stato mafia. E Italia Valori ha detto sempre che con Cruciani e cioè Gian Civili, Cruciani è stato mafia e Berlusconi. E beh, noi abbiamo detto forte e chiaro: noi Italia dei Valori, forte e chiaro. Ma che hai detto forte e chiaro? Forte e chiaro, sempre detto Italia dei Valori, Cruciani. Antonio rimane un grande, un grandissimo. Ma qual è il segretario di Pietro? Qual è il segretario del suo partito adesso? Adesso come si chiama? Messina. È uno che sta a Messina. Messina. Uno che sta a Messina. Si chiama. Uno che sta a Messina. È una brava persona che ha lavorato a stretto contatto con Antonio Di Pietro. Sì, ma no, ma che cosa sta? Non è certo Antonio Di Pietro, ci mancherebbe che altro. Non c'è dubbio, su questo non c'è. Di Pietro. Un attimo solo, torniamo da lei. È ancora a casa, Emo. Che carogna che siete, vabbè. Non siete seri per niente. Razzi sulla Corea del Nord, ormai un cult. Kim Son-un non è un dittatore, porta la democrazia. Il Kim Son-un è un moderato. Sembra un dittatore, ma moderato. Non è un dittatore. Lui sta cercando di portare un po' di democrazia a quel paese. Non è un dittatore, ma un vecchio democristiano. No, io non lo vedo. Io non lo vedo un dittatore. Io lo vedo un vecchio democratico cristiano. Lo zio organizzava il complotto e Kim l'ha fregato. Siccome suo zio non condivideva quello che diceva sto ragazzino, modo di dire, e allora stava organizzando un complotto per far fuori il nipote. E il nipote, siccome più intelligente, se ne è accorto e l'ha fregata alla curva, all'ultima curva l'ha fregato. Hai capito, Valenzo? Sì. Le grandi analisi dell'editorialista di Limes, il signor Razzi. A Pyongyang costruiscono grandi alberghi. Adesso Pyongyang, che come dice Crozza, 3 milioni e 3, perché ha 3 milioni e 300 mila abitanti, sta facendo dei bellissimi alberghi perché vuole turismo. La bomba atomica, e chi l'ha vista la bomba atomica? Beh, certo, noi la fanno vedere a lui. Io non ho visto la bomba atomica. No, ma la prossima volta adesso andrò fra poco. Te lo faccio sapere. La pena di morte, ma c'è anche in America. In tutti i paesi del mondo dove c'è dittatura c'è pena di morte. Ma scusa, adesso è pena di morte. Ma parliamo di pena di morte perché in America non ci sta ammortizzata la pena di morte e la democrazia. Bene, siamo con Gennaro Marotta, Italia dei Valori, consigliere regionale del Veneto. Buonasera, buonasera a tutti voi. Leggo sull'ultimo numero del Bernacoliere di Livorno, caro Parenzo, la seguente frase, il seguente titolo: tragedia, l'adorato barboncino di Berlusconi, Dudù lo piglia nel pupù. È gay e Silvio non lo vuole più. Oh Dudù, l'ho già preso un culo io da senatore, ti ci metti anche te? era la rivelazione di un po', diciamo, come dire, no? Interpretata dal Vernacoliere, la rivelazione. Il Vernacoliere è famoso. Beh, il Vernacoliere siamo al top. Il Vernacoliere che interpreta a modo suo la rivelazione di Alfonso Signorini, direttore di Chi, che qui alla Zanzara ha detto che Dudu, secondo lui, è omosessuale, gay. Allora, abbiamo scoperto però nei giorni scorsi che Gennaro Marotta, caro Parenzo, tu questa cosa non la sai, Gennaro Marotta si porta sempre dietro, anche in televisione, un barboncino che è assolutamente uguale. Ti assicuro, sembra ma è maschio o femmina? Com'è, maschio o femmina? Quello è di Marotta. È femmina. Perfetto. Come si chiama? Non solo è femmina, io l'ho preso prima di Berlusconi. Cioè, Berlusconi si è ispirato a lei, non credo. No, non credo proprio, ma io l'ho preso prima, siccome mi hanno detto anche in trasmissione, ma tu l'effetto Dudu. L'effetto sta minchia. Io la Fergi con mia moglie l'abbiamo presa un anno e mezzo prima. La Fergi, la Fergi. Fergi si chiama Fergi. Come l'avete chiamata Fergi, scusi, come i reali Fergi, di Inghilterra? No, non certo da quella che succhiava i piedi, la Sarah Ferguson, ma da Fergi, quella, la cantante dei Black Eyed Peas. Ah, cioè non tra parentesi mi risulta che sia omosessuale. Pure. Almeno così riportano. Ma a lei non fa schifo, diciamo, no? A lei no, schifo. A me non me ne può fregare di meno. Giustamente, anzi, lei è a favore della legalizzazione delle droghe leggere, diciamola tutta. Marotta è a favore. Ma guardi, sulla questione delle droghe leggere, la legalizzazione, io penso che uno ha l'intelligenza o meno di usarla, se vuole usarla, e se non vuole usarla. Vabbè, quello che c'entra, però quella la legalizzazione è un'altra cosa. Vabbè. Può anche non c'entrare, ma sulla legalizzazione in sé, sinceramente, forse si eliminerebbe un po'. Forse parecchia criminalità. Vabbè, comunque, scusi un attimo, questa Fergi. Sì. Non ho capito, ma la particolarità di questo dell'amico Marotta dell'ITV è quello che lui va in televisione con questo cane? Va sempre in televisione, ma perché va sempre in televisione col barboncino? Non è che vado sempre in televisione, sono andato dall'amico Bacialli di Rete Veneta, che ringrazio. Sì, Bacialli, signor Bacialli, mitico, è stato anche il mio direttore, poi mi ha cacciato, però comunque, al Gazzettino. Io ho detto, guarda, io vengo volentieri. Non è vero che mi ha cacciato, comunque. Però non posso non venire con il mio cagnolino perché siamo andati via 5 giorni e questa ci è saltata praticamente addosso perché l'avevamo lasciata con mio suocero a casa da solo. Cioè lei è costretta a portarsi dietro la sua Dudu? No, non sarei andato in trasmissione se il direttore non mi faceva portare la cagnolina. E lui ha detto, siamo ancora in clima natalizio, portala pure, nessun problema. Io sono andato con la cagnolina, che è stata buonissima. Ma perché non la fa accoppiare con Dudu? Guardi che è veramente uguale, No, guardi, neanche a pagamento, altro che bunga bunga. E perché? Neanche se mi offrissero dei soldi. Perché? No, a parte il fatto che bisognerebbe domandarlo a lei, che è grande, vaccinata e maggiorenne. Vabbè, non è che uno glielo domanda, non è che uno... Lei pensa davvero che si possa domandare qualcosa a un cane? No, allora, la nostra cagnolina non lo vediamo per strada, non accetta avance. Ma che vuol dire? Ma scusa, sa sulle sue. Facciamo una scommessa e gliela faccio. Cioè è vergine? Con chiunque. È vergine? Penso proprio di sì. Ma no, ma Fergi non può essere vergine, penso. Su, dai. Guardi, glielo assicuro. Ma l'avranno montata dietro l'angolo mille volte, dici? Su. Ma poveretto, povero Marotta. Non l'hanno montata. Ma come? Che c'entra Marotta? Che termini usi poi? Scusa. Montare, come si chiamano i cani? Che si fa con i cani? Ma si montano. Ma gli dici così a Marotta che gli hanno montato il cane? Non ce la sono ingroppata, tranquilli. Non ce la sono ingroppata. Non se la sono ingroppata. Ma è Marotta, ma come capisco? Non se la sono ingroppata. Ma è che è Marotta, l'abbiamo ma presa. Ma parlo del suo cane, signor Marotta. Ma è sempre ingroppata sarebbe stata. E comunque sia, l'abbiamo presa presso un'azienda quando aveva 6 mesi. E quindi non può essere che se la sia ingroppata prima dei 6 mesi. Ma perché non fa fare un bel bunga bunga con Dudu? Guardi che veramente. No, non esiste. Perché? Perché? Perché sarebbe lei che rifiuterebbe. Perché? Perché è anti-berlusconiana pure lei? No, non è questione di anti-berlusconiana. È che non ci sente, guardi, lo vediamo con i cani per strada. E non gli piace. Ma non è che l'ha sterilizzata. È una signorina, le vanno vicino, lei prende e comincia a tirare fuori i denti, a digrignare i denti. Ma non è che l'ha sterilizzata? Esatto. Ma vabbè, allora è che gli è passata la voglia. Allora gli è passata la voglia. Può darsi che gli sia passata la voglia. Sicuramente non ci tiene. Ecco, questo l'abbiamo verificato. Ma perché l'ha chiamata? Perché alla fine è andato su Fergi? Ma perché è stato il figlio. Io volevo chiamarla Yogurt. Yogurt? Yogurt. Beh, bianco Yogurt. Sì. Guarda che è uguale a Dudu. È identica a Dudu. Identica. Sì, guardi, oltretutto mia moglie la cura in una maniera incredibile. Perché è bianchissima, pulitissima, eccetera. Le mancano solo le pantofole quando entriamo in casa, più o meno. Mio figlio era amante di questa Fergie dei Black Eyed Peas. E alla fine ha prevalso lui, dai. Certo, ha prevalso lui. Però io voglio dire, Cattotti, ha 20 anni di meno, 25 anni di meno, ha vinto lui. Niente bunga bunga con Dudu, comunque. Assolutamente. Guardi, anche una scommessa con Berlusconi. Cioè? Cioè farei una scommessa, scommettiamo quello che vuoi che Dudu non riesce con le buone o con le cattive a ingropparsi la mia Fergie. Vabbè, ma ancora, ma beh, poi, perché scusa, non ho capito, parla con questo linguaggio crudo del suo cane, siamo sicuri, è scientificamente provato, non sarebbe capace di ingropparsi. Magari i problemi sono di Dudu, non sono di Fergie. Io non lo so. Senta, ma lei è uno di quelli che dice che gli animali sono, devono essere messi alla pari con gli uomini, no? Devono essere messi alla pari con gli uomini, che valgono come gli uomini, la sperimentazione animale. Allora, gli animali sono animali. Però quando un cane, a noi è successo così, quando la nostra cagnolina è entrata in famiglia, è diventata un pezzo di famiglia. Vabbè, quello, questo, vabbè, non vuol dire, questo non vuol dire che se in un fiume vedo un bambino e vedo la mia cagnolina, salvo la mia cagnolina. Puoi salvare prima il bambino. Certo, non c'è dubbio. Però? Però? No. Non ci però, sono però. Vabbè, però logicamente ci starei male se dovessi scegliere tra i due. Logico che sceglierei senza dubbi il bambino. Cioè, sono dei casi in cui gli animali sono meglio? Assolutamente, guardi, siamo circondati da carogne, quindi è sicuro che molte volte. Vabbè, gli animali di chi? Faccio qualche nome, faccio qualche alla esempio, politica, faccio qualche esempio. Marrotta. Ma guardi, io potrei fare addirittura qualche nome nel mio piccolo, anche nel mio partito. Ma parlo a livello locale, ma non mi metto a fare. Cioè, lei dice che i cani sono meglio di molti politici. Beh, questo sicuramente. Ma no, ma dai, su. Guardi, sicuramente. Per esempio, meglio di Berlusconi? No, no. Allora, se mi volete far fare la polemica su Berlusconi, no, Berlusconi, non che ne so. Anzi, guardi, io posso essere. Mi hanno detto, Berlusconi adesso usa anche lui i cani per farsi vedere, eccetera, eccetera. Posso dire la verità, se vuole bene al suo cane, io sono solidale con lui. Quando uno vuole bene al suo cane, sì, certo, che si faccia vedere o meno, chi se ne frega, l'importante è che voglia bene all'animale. Sì, ma quello non c'è dubbio, certo. Questa è la cosa, è così come vado d'accordo, sono d'accordo con quello che sta facendo per gli animali, la brambilla. Comunque non se l'è ingroppata nessuno la sua? Ancora con questa cosa? No. Ma lui ride, se parlassero così del mio cagnolino mi dispiacerebbe un po' così. A presto Marotta, a presto Marotta, ciao. Va bene, ciao. Arrivederci, ciao. Allora, voglio dire una cosa, è incredibile che il dibattito sulla cannabis, che è un dibattito vecchio, antico, inutile, ridicolo, perché ci sono due posizioni chiare, scegliete e non rompeteci più le palle. Se non siete in grado di scegliere perché c'è la Chiesa, perché c'è il perbenismo, non ci rompete i coglioni con ma i dibattiti inutili. Hanno i numeri volendo in Parlamento, ma soprattutto questa volta per votare. Ma non avranno mai il coraggio. Volendo, no, ma indipendentemente dal governo, hanno i numeri questa volta volendo. Allora, il dibattito sulla cannabis è tornato in voga grazie a che cosa? A un retweet sbagliato in realtà, perché è successo questo, che un leghista, consigliere regionale se non sbaglio, Fava o assessore, non mi ricordo bene cosa, ha espresso la sua posizione a favore della legalizzazione della cannabis contro la Fini Giovanardi, eccetera eccetera, va benissimo. Maroni ha fatto un retweet ad un tweet, però dice che si è sbagliato perché è stato un suo collaboratore, ha smentito che questa sia la posizione della Lega, pure Salvini ha detto che è contrario, altri leghisti ci dicono che sono contrari, non se ne trova uno tranne Pini, il mitico Pini, che sia invece a favore della legalizzazione. Per cui tutto questo casino è stato generato, tutta questa discussione inutile, da un retweet sbagliato. Giovanni da Macerata. Salve, buonasera Cruciani. Allora? Prima di tutti volevo fare un'affermazione e poi una domanda a Parenzo, perché Civati. Sì, però deve spegnere la radio, lei ancora non ha imparato, deve spegnere la radio. Prima cosa. Niente. Mi sente? Sì, la sento, dica. Sì, volevo dire un'affermazione, noi come popolo italiano siamo un popolo senza memoria, questa è una mia affermazione che faccio. Beh, non è una sua affermazione, ha un peso. A tutti gli italiani che sono collegati via radio adesso, quindi noi come popolo italiano siamo un popolo, soprattutto adesso, non so per la situazione mass mediatica, che vive un eterno presente. Un eterno presente, sì, questa è la dichiarazione importante. Sarà una cosa che farà. Questa è un'affermazione che le faccio anche perché soprattutto. Per carità, sì, certo, ma la ridica con solennità, perché secondo me farà discutere. Aspetti un attimo che chiamo un attimo l'agenzia di stampa, oppure aspetta, qualcuno che la può riprendere. Prego, dica. Sì, noi come popolo italiano Quindi tutti i cittadini che sono adesso in ascolto alle radio, che stanno tornando a casa in macchina, siamo un popolo. Siamo un popolo, senza una memoria. Senza una memoria. Questo, bene, questo però, quindi che vive in un eterno presente. È una riflessione molto profonda. Noi viviamo la quotidianità, quindi la difficoltà di non c'è dubbio. Avere quindi delle soluzioni, studiare, proporre qualcosa, perché viviamo un eterno presente. Un eterno presente, un eterno presente, non c'è dubbio. Poi? Poi come seconda cosa io volevo chiedere a Civaldi, come sono anche un giovane che si interessa di politica, che ama la politica, che sia la storia della politica italiana, assolutamente, questi 50 anni della Repubblica, Io volevo chiedere a Civaldi come si fa, no? Sì. A un certo punto avere una certa visibilità. Visibilità, quindi poter diventare un politico a livello nazionale con una certa visibilità, avere un seguito, e se Civaldi ci è riuscito, no, a acquisire questa posizione dopo che per ben 10 anni ha fatto il portavoce dell'ex presidente della provincia di Milano, Penati, no? Non ha mai fatto il portavoce. A parte che non ha mai fatto il portavoce. Vabbè, Penati, portavoce, l'uomo vicino, no, a Penati. Mai fatto. Vabbè, non è questo il punto. Non proprio portavoce in senso tecnico. Ecco. Vabbè, Giovanni, abbiamo capito nulla di male, ma non l'ha mai fatto. Michele dalla provincia di Udine. Sì, buonasera, sono Michele Cruciani, grazie questo di questo abbiamo spazio. Capito? Dica. Ho avuto la fortuna di fare una settimana di vacanza tra Roma e Prato. Sì. E ho aperto gli occhi, cosa che dalla TV e dalle mie piazze nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia non avevo mai visto. Cioè? E durante tutto il Capodanno e i giorni seguenti ho girato per le strade da Piazza di Spagna al Colosseo, a Prato, Prato Centro, Firenze Centro, e vorrei invitare tutti, anche i politici e gli italiani, a vedere queste città che dovrebbero essere i nostri simboli per il turismo, eccetera, a vedere lo stato di degrado, di evasione fiscale per le strade, proprio alla luce del sole, con le auto della polizia, carabinieri, guardia di finanza che passano davanti. Cioè lei che vuol dire alla fine con questa cosa? Ma voglio dire che stiamo facendo una lotta televisiva parlando di Made in Italy, di salvare l'Italia, di regolare l'immigrazione, quando ogni giorno, ogni minuto della giornata, se ne sono stato testimone per una settimana, per le strade si spaccia droga e si vende droga a tutte le ore, d'accordo. Si vende droga a tutte le ore, ma anche davanti ai poliziotti, quindi faccio questa segnalazione perché io da Veneto sono sconvolto, cioè non ho mai visto una cosa così. Beh, non è che solo a Roma succede, non è che succede solo. No, no, io parlo per la mia esperienza. Sì, comunque è vero, cioè, ci sono alcuni posti. Però voglio dire, alla luce del sole, davanti alle facce dei poliziotti, della Guardia di Finanza, senza come si dice, senza nessuna vergogna, cioè proprio di fronte a tutti. Va bene, Renato da Milano. Intanto c'è una notizia incredibile, Parenzo. Il nuovo tesoriere del Partito Democratico, che si chiama Bonifazi, che è uno scelto da Renzi, sembrerà paradossale, sembrerà incredibile, ma un debito nei confronti del Partito Democratico per quote non versate del suo stipendio, credo da consigliere regionale, non so che cosa, ha un debito con il partito, cioè il tesoriere, che tra l'altro sta facendo una specie di spending review sui costi del Partito Democratico, le consulenze, dice che bisogna ridurre i costi, i viaggi, eccetera. Lui ha un debito di 30.000 euro, signor Bonifazi, 30.000 euro. Prima a pagarle. Cioè. Ma dice che li pagherà, eccetera. 30.000 euro di debito. Sono praticamente lo stipendio di un dipendente. La rivelazione sono praticamente lo stipendio annuale di un dipendente. Cioè, il signor Bonifazi, che è il tesoriere scelto da Renzi, ha un debito con il Partito Democratico, la rivelazione del Foglio, di 30.000 euro. 30.000 euro. Adesso, prima di fare la spending review, restituisse quei danari, e poi fa la spending review del Partito Democratico. Renato da Milano. Salve Florenzo, salve Cruciani. Io volevo parlare per quanto riguarda i senatori a vita. Sono favorevole. Vabbè, poi? Nel senso che il sistema è basato sul consenso. Quale consenso? Voi stessi in un incipit, diciamo, di Radio 24. Un certo non ho capito che vuol dire il sistema è basato sul consenso, non ho capito niente, non vuol dire nulla. Tutti per farsi eleggere devono, cioè tutti devono farsi eleggere, e per farsi eleggere, come dite voi, vi diremo tutto quello che voi vi vorrete sentire. Ma che vuol dire? Cioè, non vuol dire, collegato no, ai senatori questo. A vita, non vuol dire nulla. Nulla. Vuol dire questo, che io ho bisogno, io sento l'esigenza di qualcuno che mi dica che sono un pirla quando faccio le cazzate, che dica le cose come stanno, e non che ti dicono tutto quello che vuoi sentirti dire, tanto l'importante è che mi eleggi, poi vaffanculo tu e chi è che non te lo dice. Questa è la situazione. Quindi il discorso di scegliere è il bravo maestro d'orchestra. Detta così sembra che siano gli unici che dicono la verità, però. Detta così sembra che siano gli unici di anticorpi a questa situazione. Ma figuriamoci. Ma non è esattamente. Ma non ho capito. Se il presidente della Repubblica, al posto di dare le medagliette fine carriera, no, scegliesse dei rompicoglioni da un punto di vista intellettuale, che fossero anche, come dire, profitti nei confronti di come vanno le cose. Io sì, dico, ma ho capito, anche se nominassero Cacciari io sarei scontento lo stesso. Vanno aboliti come va abolito il Senato. Ci sentiamo domani 18:30, ciao. Sicuramente le passere d'Italia avranno motivo di conforto, diciamo, da questa nostra considerazione molto semplice, ma che credo le passere avranno già colto. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. Radio 24. La passione si sente.